Siamo in diretta? Dirtissima! Sì. Tycoons & Dragons, episodio della maledizione di carta numero 32. Giochiamo a Dungeons & Dragons versione 5.0. Come andrà Giacomo Marchese a Bologna? Abbiamo Giulio Pozzi, Stefano Gamberoni, Master Enrico Cattabriga, da Quarnabrook, Trombabrook, Marco Bosi, e da Copenhagen, Frontistrug, Bornsrug, Barovia, abbiamo Edoardo Saladini, in attesa. Buonasera. Buonasera, Edoardo, buonasera anche a te. Dottore. Dottore, buonasera dottore. In collegamento. Oggi affronteremo un argomento... Sì, il clima effettivamente è quello della Barovia, il suo clima, hai ragione. Però il ferrarese è il clima della Barovia. Detto questo, senza ulteriori indugi... Non ci sono lupi a Copenhagen. L'ultima volta ci siamo lasciati con un momento suspense dove è caduta la linea, è caduto tutto, è crollata la casa. Ma in realtà era tutto a posto, nel senso che praticamente è arrivato il male cioè il male del male del male. Che si è aggiunto al male. Al male, esatto. E probabilmente guerreggeranno tra di loro per chi ci farà più male. Non potremmo gentilmente toglierci di mezzo. E noi in questa lotta... No, prendiamo tutti una bandiera a scacchi. Pronti? E diamo il via. No, no. Con i numeri dei round. Usiamo la cosa buggata di sfortuna per crearci il cantrip di spostare la terra. Mm-hmm. Per crearci una via di fuga. Facciamo il podio per il vincitore, no? No, perché... Adesso ti picchio. Per crearci una via di fuga. Le Minecraft che mette i cubetti. Può spostare un cubo di 5 piedi di terra, che tra l'altro ho fatto più o meno i conti, sono circa 3 tonnellate di terra ogni round. Tu va in 10 minuti quanto ti sposta. Le può sotterrare i nemici. Io ti attacco. Sotterrato. Può farlo in teoria, se non è troppo grosso il nemico. È mutato Marco. In teoria c'è scritto in descrizione che non posso usarla per fare danno. No, lo blocchi solo. Devi solo spostarlo. No, ma non fa male a nessuno. E allora, comunque, facendo un piccolo riassunto, l'altra volta abbiamo ripreso dallo scontro definitivo con tutta la gente di Kretzk. Però metà della gente ha abbandonato il combattimento, tra cui Kretzkov, una delle mogli di Strad. Cioè, tutti siamo arrivati tipo un punto, due punti, cioè 5 punti. Tutti a parte una progenie che abbiamo seccato e il golem di carne che è rimasto lì. Il golem di carne è rimasto lì, però siamo riusciti a eliminare i teschi che giungevano da fuori dalle mura. Anche il golem di carne. E ci siamo affacciati alle mura. Io non mi ricordo il golem, perché il golem è tornato indietro a un certo punto. No, è sempre rimasto lì. Ah, abbiamo ucciso il golem. Sì. Ah, è vero, che giubilo. Vai, abbiamo appena ucciso qualcuno. E non siamo ancora finiti. Il golem è morto anche grazie ai teschi che volavano. Vabbè, sto scemo, adesso non è che dobbiamo per forza. Per quello che non siamo saliti, hai capito? Bene. Ti ha stillato la chiave. È vero. Ecco, ok. Comunque, siamo arrivati. Ci siamo. La kill. Ma ci siamo affacciati agli spalti. E c'era lì. L'ha detto lui. C'era il braccio destro di Strad. Vero. Sei già arrivato alla fine, giusto? No, eravamo alla fine, cioè non c'era. No, allora ci siamo affacciati. Ma stiamo facendo un riassunto. Ci siamo affacciati agli spalti. Abbiamo visto che c'era il mondo. C'erano quelli che lanciavano i teschi. C'era una strega vicino a. C'era il Minotauro alla porta. E poi alla porta. Ma quello che so prima che ve l'ho detto, c'era un Minotauro scheletrico con una compagnia di una ventina di scheletri. Abbiamo cominciato a lanciare delle pietre giù e non abbiamo beccato mai. Grazie. Buoni scopare. Cosa? Con i teschi. Ma all'improvviso, dai cespugli. Ma all'improvviso, finalmente è arrivato. Sono usciti, sono sbucati. I cacciatori di vampiri. I cacciatori di vampiri hanno ucciso la strega. Quando avrebbe voluto uccidere un sacco di vampiri. Solo che dopo che hanno ucciso la strega è apparso Radin con mille milioni di miliardi di con lupi. Dei lupi mannari. Hanno rotto anche il trabucco, tra parentesi. Però adesso si trovano in un bel guai. Con dei lupi mannari e della sorta di spaventapasseri animati. Esatto. Casimir invece è con noi. E da lì ripartiamo. Esatto. Però direi che io sono messo male. Sì, hai 17 punti ferita. Vabbè, Giulio, non è che devi... Ne ho 15. Credo anch'io. Usa l'inspiration per curarmi. Tu ne hai 34. Si può usare così? No, un po' di più. Allora cosa sei? Cioè, nulla. 34 Dulli. Perché hai quelli temporanei. Senza? 26. Allora, cioè, Arcina ha 47, ma tipo finito quasi tutti gli incantesimi. Non saremmo pronti per uno scontro importante. Oh, scemo. E invece, no. Ironia della sorte. L'unico che si può salvare sono le mura di Kresk. No, l'unico che è come nuovo è Race. E se non sbaglio, non era sceso giù? Sono invisibile io, però. Sei invisibile e sceso giù, no? Poi a sì. C'era pensato. Però avevo detto che ero lì intorno, cioè vi avevo comunicato la mia presenza. Era sceso giù per della serie, rega, io vado. Cosa? No, questo è risalito su, però. Sì, è risalito. Sì, perché se non avesse ucciso coso Van Richten, la strega, ci avrebbe pensato lui con sparando. Sì, in realtà io volevo incularle il libro che ti uccide, però sì. No. Con mano magica? Sì, volevo andare vicino con mano magica, il libro per scappare e sperare che mi inseguissero. Non direi. Va bene, torniamo al lungo scontro dello scontro. Allora il mio personaggio vuole combattere. Era questo. Sarà per il background. Bar. No, ho chiesto se sono ancora i miei, se sono ancora i miei. Non ha molto senso ragionare. Perché da bambino. Era un danno normale. Quando la mia mamma mi ha detto continua a combattere, lo so, non ci riesco la mia testa. Vi siete persi più un sceo che filosofeggiava sul suo background. Ma non è vero. Forse tu Katta volevi che io mettessi la sigla. Tipo Katta gli stava dicendo qual era il suo background. Ma non è vero, non è assolutamente esatto, vero. Ma questa cosa è successa tante altre volte che ormai non ci sono. Non è vero. Ma sei riuscito a capire poi che cosa l'ha tirato? No, perché ancora non ha visto la sua scheda. La gente gli chiede, io non capisco. Domande indiscrete. Basta, cioè, che poi ognuno, cioè, hai fatto no, il suo. No, cosa l'ha tirato quando ha creato il personaggio, non che se no, vuole. Non devi uscire da lì, perché? aspetta. Vivo Salla. No, anche tu non è che puoi uscire da dove vuoi. Riparla. Cosa? No, non è che io credo che la faccia che riassume tutto sia quella di Marco. Comunque in tutto niente, si è connesso alla cassa prima l'iPad del mio telefono. Lo stai bevendo, Marco? Impossibile connettersi. Ti sta bevendo. Hai inteso Giulio? Sì. Che schifo. Come che schifo, Giulio? Sì, deve essere buon liquido. Prima di collegarti, Salla, Marco ha esordito, ha cominciato una frase dicendo tecnicamente. Poi non so cosa ha detto perché abbiamo cominciato tutti a ridere, però volevo renderti partecipe di questa cosa, per cui la Giulia... È finita lì. Sì, sì, perché non so cosa ha detto dopo, non l'ho più ascoltato. Eravamo in preda alle visioni tipo post-aromatico, come era detto. Perché è pieno di zombie. Ah, però sono skate in realtà. A proposito. Skeleton. Ah no, scusa. Allora, la puntata scorsa si è conclusa con i nostri eroi. Che... ecco. Alla console. Sei un capigliano. I nostri eroi che con le mazze e con le pietre cercavano di impedire impedire al master di iniziare questa sessione. Vedi che ho diviato 10 anni fa con la cassa, con la musica, il microfono si cambia tutto. Ma ti sto chiedendo una cosa, tanto che sta uscendo. È tipo un video degli highlights, no? Voi avete solo un intermezzo musicale e poi noi. Ma neanche perché siete due prove. Adesso sono fermi. Ma quello perché sono la stessa scena. Andava bene perché si è cambiato da solo, però. Vabbè, Kata, tu ok, io continuo e ragazzi Spero mi capiate. Non credo. Esatto. Perché cazzo? Non c'entra, questa è la mia live. Va bene. La scorsa puntata si era conclusa con i vostri cari alleati che avevano sconfitto la strega che stava azionando il trabucco e vi lanciava addosso i teschi infuocati. In quell'esatto momento. Ora è tornato. Ora secondo me sono tornati dalle casse. Parlate? Sì. In quell'esatto solo, momento avete visto Radin sul ciglio della foresta che adesso potete vedere. Perché facciamo il riassunto se pure rifacchiata in seconda? Che questa è una cinematica. Qui è quando hai sprecato tutto il toner della tua stampante esatto. Lavoro. Bello. Cosa scrivi? Ma non c'entra un cazzo, rega, perché è l'unica cosa che non sto usando il MacBook. Esatto. Infatti ti sto dicendo mi compagno. Comunque sto usando l'iPad e la cassetta. Comunque io te lo dico. Escono la fa da solo però, raga. Ma il problema lì non è nessuno se non Skype che fa cagare. Ho capito, raga. Beh, su questo siamo tutti. Ma è normale che lui cambi da una cosa all'altra? Non è che semplicemente una questione fisica di cavo che si collega e si collega magari in contatto. È possibile, però. Perché lo legge, non lo legge, non lo legge, non lo legge. Va bene. La situazione è la seguente. Radin suona un piccolo strumento bianco che tiene in mano e vedete spuntare dal. Però noi non sentiamo. Che voi non sentite, lui ci soffia dentro, ma nessun suono esce da questo strumento. E da questo punto della foresta esce un piccolo gruppo, saranno almeno una dozzina di lupi mannari. Ma è componibile? No, sono due per farvi vedere sia da una parte che dall'altra. Quindi deve essere uno. Quindi sì, per voi che potete andare a riprendere l'immagine che vi ho mandato. Da quel punto della foresta escono dei lupi che corrono in direzione di Rectavio e di Esmeralda, che vedendosi alle strette cominciano a scappare nella direzione opposta. Dopodiché Radin, che è in groppa all'incubo bucefalo, comincia lentamente a trotterellare verso le mura e al suo passaggio vedete la terra intorno a lui che comincia a smuoversi. Sì, l'incubo è il cavallo in questo caso anche di Radin, no? Cioè, sì. Non è il cavallo di Strad che magari ha preso lui, no? Non so, l'ultima volta quando siano distinguibili uno dall'altro, però vi sembra sempre quel cavallo. Okay. Salutiamo Alessandro, Jimmy. Oh, bella Jimmy. Mentre lui cavalca verso le mura, intorno a lui la terra si smuove e vedete tante braccia uscire per cercare di scavarsi una via verso la luce. E in poco tempo la piana sotto le mura comincia a riempirsi di zombie grossi, grassi. Beh, e marcescenti di difendere la mura. Beh, magari i zombie mangeranno gli scheletri. Che cominciano a naspando. Beh, a portare le loro a portare le loro membra. Beh, se in avanti potremmo prendere tutti un livello da chi accumularlo per arrivare a lo dobbiamo fare la compagnia mono solo chierici no dipende due tre livelli da chierici no decidiamo un personaggio vediamo tutti quel personaggio cioè quella classe lì Padre Mighi ah no Padre Mighi abbiamo di Padre Mighi no il vabbè, che problema c'è? Questi cominciano lentamente a dirigersi verso le mura. E insieme a loro, in mezzo a loro camminano anche questi spaventapasseri animati. Sì, sì, ce l'hai detto. Giusto per renderlo. Non ci spaventi. Non certo. Siamo passeri. In realtà potrebbero, adesso ne riparliamo. Ma sai, avendo 10 punti ferita penso che anche un passero potrebbe spaventarmi, però... Molto bene. Nel frattempo, di Emanueliana memoria. Dietro agli spalti, il vostro caro amico Radin, che vi sprona a resistere, è lì che sta. Scusa, chi ci sprona a resistere? Kevin. Era per vedere se stavate attento. Radin ci sprona a resistere, qui dalla nostra parte, esatto. Finalmente. Bravo. Sono arrivati i rinforzi. Ci sta. Esatto. Guarda adesso. Gandalf! Esatto. Vabbè, ci sta, perché lui potrebbe voler prendere il posto di Strad. Bisogna ascoltare. Ma secondo me c'è una. Ma tu vai. Tutta la compagnia a romperci le palle perché guardavamo con un. Secondo me, sta cosa è in verità un regolamento di conti tra subordinati e Strad. Secondo me sia è la cosa più sensata. Detto questo, e noi siamo in mezzo come coglioni. Ma noi salveremo tutti. Sì. No, in realtà. Cioè, per approfittare del caos per prendere i popolani e uscire. Ne lasciamo morire. I popolani ci saranno come distrazione. Io non penso che. Cioè, c'è una specie di stuolo di non morti di vario genere che si frappone tra noi e qualunque cosa. Quindi le mura in questo momento rappresentano l'unica però, nostra difesa. Scusami, siccome sono sotto un esercito e qui un altro, se noi ce ne usciamo da dove siamo entrati. No, vabbè, loro qua. No, per precisione. Cioè, Radin sta arrivando da qua, da ovest, insomma, esatto. Ovest, e le altre sono qua. Quindi il lato cancello è qua da sud a ovest. Il lato è occupato da Radin e il suo esercito. Ma sì, ma adesso noi prendiamo i mongler. Quindi i mannari da dove erano? I mannari sono spuntati da qua praticamente e hanno cominciato a rincorrere i vostri amici. In pratica, noi potremmo scappare da dove siamo entrati. Ma noi possiamo anche andare all'abbazia, scavare un tunnel, bussare? No. No, adesso li sconfiggiamo in qualche modo. Aquile? Non so quale. Ti ho detto Aquile? Quanti zombie ci vediamo, grosso modo? Grosso modo, una cinquantina. Sì, Vez, dai. Però dai, che facciamo, Vez? Agile. Buttiamo giù le. Raga, dai, una decina a testa. Per voi non sembra, fortunatamente abbiano un modo per scavalcare le mura adesso. Ma visto che abbiamo tutti visto molti film di zombie, sappiamo che. Ma sono zombie veloci o zombie lenti? Sono zombie lenti. Hai detto molto lentamente. Perché si muovono 20 piedi, quindi sono zombie lenti. Quindi sono zombie veloci. Hai mai visto World War Z? In effetti. Sì, diciamo, visto la scena dove si accumula. Esatto. Vabbè. Sono zombie. Cazzo, abbiamo una cinquantina di zombie, una ventina di scheletri, un minotauro scheletro. Abbiamo tipo gli spaventapasseri. 10 zombie, un mannaro, diciamo che i mannari seguono i due cacciatori. Quindi abbiamo comunque contro un centinaio, 80-90 tizi. Perfetto. Vabbè, dai, ormai moriamo. Con alle spalle, altrettanti. Allora ci sta, forziamo il tutto finché Katta non trova un modo per farci uscire da qua. Non mi sembra. Scusa, ma abbiamo lì la trivella, scappiamo. Basta, uscire dalla trivella. Ma uscire con le nostre gambe. Basta, non ne posso più. Katta potrebbe avere un modo facile per farci finire questa storia. Ho già vinto un duello che sono l'unico che è uscito da quel cerchio sulle proprie gambe tra i due. Non è verosimile che il mio paladino scappi sempre. Cioè, non si può. Bravo, allora. Fino alla morte. Bravo, sacrifici di perfetto. Sì, dai, se almeno cambio personaggio ne prendo uno che. Beh, ti insegno io a cambiare personaggio facile. E vabbè, vedi, ho fatto il background. Vedi. No, okay. Hai fatto il background e cambio personaggio. Sì, praticamente. Vabbè, facciamo così, ognuno gioca per sé. Le altre volte che funziona. Fai la tua parola. No, nel senso che stiamo ragionando ad alta voce, non scappiamo. Adesso convinciamo. Cos'è stato? Mio fratello. Convinciamo i mongre restanti. Hai spostato qualcosa sul microfono grattandolo, tipo. Cioè, da lontano il microfono. Vabbè, convinciamo i mongrel a combattere con noi, ma non per noi. Bene. Per Cre, no? Ma i mongrel sono rimasti tre coglioni. No, allora, erano 30 finché erano contro di noi, quindi io... Ma ne abbiamo ammazzati 20! E ne abbiamo ammazzati 30 la volta scorsa, quanti possono essere ancora? Giulio, noi ne abbiamo ammazzati tipo 800 di mongrel. Però Katta continuava a farne arrivare, quindi io ho un'altra idea. Se Giulio desse fuoco a tutta la città, non sarebbe più niente da saccheggiare. Questo è il mio piano A. Se ci allontaniamo di qualche passo e torniamo, risparmiano. Che tra l'altro ho provato a fare la volta scorsa che siamo stati in città. E comunque vi ricordo che sta piovendo a dirotto. Vabbè, ma le cose prendono fuoco uguale. Funziona uguale, non è che. Ti abbassano un po' il volume, mi vedo un po' che sia. Va bene. Vabbè, dai. Per semplicità. No. È che l'ultima volta che la tua voce era troppo forte ha chiamato la polizia. Non vorrei che. Un gruppo di zombie e spaventapassari. No, non era punta a questo. Aspetta, Cata, facci fare il paziente, facci fare qualche turno nel combattimento. Rimbombava particolarmente. Cioè, siamo già in difficoltà. Dacci almeno qualche possibilità di lanciare un po' di pietre. Ti sto dicendo che cosa succede, in che direzione si stanno. Sì, ma non sono ancora arrivati. Sono lì che stanno arrivando. Fare 12 turni. No, io l'ho chiesto più volte. Tra l'altro, almeno. Almeno tre turni prima che arrivino sotto le mura li avete. E poi tra almeno tre turni. Dopo che resto, sì. L'ultima volta, quando la polizia era sotto a me, è caduta la connessione. Ah, è vero. Vi sto dicendo che si stanno dirigendo un gruppo verso... ricordi. Già. Un terzo verso questo bastione, un terzo verso questo e un terzo verso questo. Se 4 è perfetto, andiamo, guarda. Andiamo, salviamo anche il bambino che è nato prendiamo, il giorno prima, così sei contento. Prendiamo una cannuccia a testa e andiamo in acqua. Ok. Ci nascondiamo nella. Per comodità terrò l'iniziativa dell'ultima volta. Atanas. Ah, cazzo, sono prima. Una cannuccia a testa. Mi raccomando, Katta, io sono ultimo. Tu sei ultimo. L'alternativa è provare a ragionare la popolazione. Ok, io guardo gli altri e dico, beh, direi che... difendere le mura non sembra tanto un'opzione. E poi no, è che il fatto è che stanno circondando, quindi noi siamo in pochi, potremmo difenderne una parte, entrerebbero però dalle altre, cioè sono in tanti, se manca una cassa una sola. Sì. Sì. L'unica, allora, abbiamo due opzioni, fatto scappare o andare alla bazzia. Ma rega, cioè anche se scappassimo. Cioè, nel senso, tu arrivi qua. Noi siamo in 6. E dove cazzo vai? Ti arrampichi, come siamo entrati? No, ma anche se esci. Cioè, il problema è se. Ah, cioè, dopo che sei uscito. Dove cazzo vai? Perché le strade sono qua. Qua c'è la foresta dove sono i mandanti. Quindi, dove cazzo vai? Cioè, non vai da nessuna parte. E poi, effettivamente, a nord di Crest c'è nulla. Non vai da nessuna rifugiamoci parte. Rifugiamoci da una parte. Rifugiamoci. Non ci si poteva stare 5 minuti. Se riuscissimo a uscire cioè, dalla parte nord di Crezza saremmo di fatto nella foresta. Non vai da nessuna parte, rega. Cioè, nel senso. L'unica è provare a resistere qua sulle mura. Perché forse ancora non è una roba che vola. Possiamo sperare in una. Non vi sembrano zombie volanti. Cioè, se loro arrivano su. Cioè, un po' di zombie riusciamo a portarli giù. Vabbè, comunque il mio turno. Io dico. Direi che non riusciremo mai a difendere le mura e ritardo a un ultimo per vedere cosa fa gli altri. Garrosh! Buttati giù! Beh, ci potrebbe buttarti giù e spazzare via il tavolo. Sì. Sì, era anche la mia idea prima che arrivasse un esercito. Io, aspetta, sono su? Dove sono? Sono ancora siete su? Tutti in S2 sulle bastioni. Tutti tranne... Salla forse. No, io anche Salla. Allora io prendo una pietra e la lancio. Va bene. Sono in modalità. Sì. Posso spaccare. Su cosa... chi la lancio? E cosa c'è? Sempre il Minotauro lì sotto che picchia. Provo a continuare a colpire lui. Che immagino stia cercando di fare da ariete contro la porta. Sì, anche se adesso è un po' impegnato perché è stato sommerso da lupi e serpenti. È vero che sono lupi. Ah, è vero. Era caduto, mi sa, il Minotauro. Sì, era stato reso supino da... Vabbè, allora cambio obiettivo se c'è un quindi lupo. Quindi avete svantaggio le tecniche. Se c'è un mannaro. No, lupo sono quelli di altri. Mannaro. Specifico un mannaro. I mannari sono qua. No, perché hai detto un terzo. Un terzo degli zombie. Quanto ci mettiamo a arrivare ai bastioni noi? Perdone. Un quadretto sono 50 piedi. Quindi, cioè, nel senso ci mettiamo tipo loro. Quindi, secondo me, quello che ci potrebbe convenire è andare a occupare le posizioni dei bastioni. Però tu sei in ira, quindi fai quello che... Io ho capito, ma cosa ne affrontiamo? Due. Io rega finché qualcuno di voi non mi fa rinsavire un attimo. Primo zombie che vedo, dai. Cioè, sfortuna 6 punti ferita. Io non lo so. E io quindi sono qua. Tu sei qua. Fai così, se pazzia, tiro un dado percentuale per vedere chi cazzo va a rovinare. Tu do il cuore al coglio. Dai. C'è la mia idea, boh, colpisco. Anzi, cominciamo dal livello 1 in questa stessa campagna. Li sapete già tutto e andate molto bene. E proviamo a mandarla subito al vino. Andiamo subito alla vigna. No, no. Proviamo a mandarla ancora più in vacca di quanto abbiamo fatto questa volta. Tira addosso. Non andremo mai alla vigna, mentre stavolta la vigna ci siamo andati. Non andremo mai alla vigna. Tra le due forse avresti svantaggio. È vero, perché è un attacco a distanza. E cos'è? Usavo solo la forza, giusto? Sì. 15. Colpito. Cosa tiro per i danni? Un D4, un D6. Che cos'era? La cosa mi facevo tirare l'altra volta per il masso? Credo un D4. Un D4 più la forza. Quindi un D4 più 4. Sono in ira più 6. Conta i danni dell'ira aggiuntivi. Sai tu. Non ho mai usato una pietra. Hai colpito? Scemo. Hai colpito il Minotauro. Vabbè, intanto tiro, nel caso ti dico che sono due danni in più. 8. Ho fatto 4 con di qua. Vabbè, quando lo sarà 8 forse. Sfortuna. È il protagonista della sessione. Quindi c'è un esercito in S5, un esercito. Dov'è S5? No, S5 non ancora. Eh? Ancora no in S5. Non c'è un'abbazia. Vabbè, sì, quelli sono dei nostri avversari. Sì. Ci pensiamo, potrebbero diventare nostri alleati a breve. Sì. È più facile Radi, almeno con Radi ho un rapporto. Dice usando la forza, quindi sì. Quindi sono 10 okay. danni. 10 danni. Il Minotauro è un po' marrido. Ah, 10 danni con un sasso. Beh, ciao. Oh. Cosa fai? Provo a lanciare. Aspetta, scusa, perché è un attacco solo io? No, sì, esatto, poi c'è sfortuna che può fare. Perché avevi una pietra in mano. Vai! Ma spara il Minotauro! Sega il Minotauro! Mi ricordo che sono 10 arcieri. Cioè il prossimo turno. Io muoio, provando. Sono più forti di zombie. 15-18. Gli iscritti fanno. Colpito! Hai fatto uno. Bello. In totale 17 danni. Su uno scheletro? Mm-hmm. Ok. È ancora vivo? Dai, no. Non so. Quanti danni hai fatto? 17. Sì, no, è morto. Sì, è morto. Sì, ma fa cagare. Perfetto, sono... allora prendo 10 punti vita temporanei. Sono 16. E me ne vado verso est di 30. Est sì. È dall'altra parte. Cosa? Est è verso. Verso l'abbazia. Cioè verso il sotto. Non so come. È la parte opposta rispetto a quella dove stanno arrivando i vostri nemici. Vai verso S4? No, è est. Perché S4? Non c'è parte della città? Non so dov'è l'est, non lo vedo in questa carta. Si vede in quella immagine. È a destra l'est. Ah. Nord, scusa, verso... intendo destra con est. È a destra l'est. No, lui dice da dove siamo noi, catta, quindi va dall'altra parte. Ah, perché voi state guardando verso sud. Ah. Stiamo guardando verso dove arriva il mondo dei nemici, catta. Arriva ad ovest. No. Arriva da sopra anche. Perché non si è capito dove vai. Adesso. Sono nemici ovunque. Ovunque vada troverà un nemico. Guardando gli scheletri vai verso destra. Sì, rega, va verso gli altri. Sì. Ok. Oh, tocca a Casimir. Magica pula, apri il dolore, apri il portone. Non era questo che doveva fare. Beh, se fosse uno stregone a Wild Magic potrebbe. Allora, così di solo li affronteremo meglio. Esatto. Tu sai che avevi fatto una volta il loro numero. Sì, era tipo il primo che aveva il loro numero per la regina dei conterà di brutto qua. Lo stregone Wild Magic. Ah sì, la prima missione è quella easy, l'entry level. Ah, la miniera di Fandel. Sì, esatto. Le mini. Sono stato anche una pecora per tipo tutta una sessione. Tra altre cose. Ok. Casimir fa protrudere energia e fiamme dalle sue mani e girandosi verso il... Non è mai stato così forte Kevin. Come no? Era... È diventato la... Super Saiyan. Vi ha appena obliterato gli altri mongrel che vi stavano per salvare. Da quando ha saputo che c'è la tomba dedicata alla sua... è diventato... Alla sua sorella che lui ha voluto uccidere. Lui si sporge dagli spalti e butta contro. Io ho detto diventato Super Saiyan e tu fai questo. Beh, cioè. In questo mondo la palla di fuoco si lancia così. Va così. Oh. Kamehameha. Il componente come si somatico è quello. Beh, adesso sta vedendo. E spara una palla di fuoco addosso agli scheletri e al Minotauro, incenerendoli all'istante. Tutti? Sì. No, vabbè, se Kevin fa ste cose, prendi asso di peso, spara. No, tu lo sai cos'è questo? Non lo sai, è uno specchietto per le allodole. Dai, lì, qui è forte, combattiamo. Non farà più niente, moriremo. Ha finito la palla di fuoco, era l'unica che aveva. Sicuro? No. C'è una cinematica per cui lui o scompare o muore. Sì, grande. Sì. Cosa hai detto, Marco? Gli animali di Arci sono morti. Gli animali di Arci sono morti. Ne rimangono vivi. Ne rimangono 4 lupi e un serpente. Beh, dai. Accendiamocelo. Perché erano più sotto le mura. E quindi sono stati investiti meno dall'esplosione. E... Cioè, questo è il tuo modo per dirci che dobbiamo combattere. Questo è quello che fa Casimir, poi voi potete... il suo modo per dirci tanto siete inutili, non fate niente. Anche. Poi voi potete fare quello che volete, lui comunque dalla parte sua vi dice... Ottavio è scappato in seguito dei lupi. Lui dalla parte sua vi dice, la nostra unica possibilità è difendere le mura. Sì. Voi proteggetemi e vedremo di impedire a quei cosi di salire. E comincia a correre anche lui seguendo Sfortuna verso i bastioni. Grande. Che stanno per essere presi d'assalto. Grande. Guardistran. Quindi adesso lì non c'è nessuno. Vedo quindi, un corno. C'è un cratere con delle ossa. Che... Vedo su uno dei bastioni un corno. Sì, c'è un corno. Minchia, posso andare dal corno? Puoi andare dal corno. Vado dal corno e lo suono. Lo sai che attirano altre creature contro di noi? No, è il corno della battaglia. Chiamo tutti a raccolta, sperando che magari tipo i mongrel stupidi arrivino. Escono dalle case e cominciano a tirare a noi le cose. Alcuni erano di fianco a noi, tipo due. Sì. I due sopravvissuti. Al suono del corno vedi qualche figura che esce dai suoi dei nascondigli, dalle cucce dei cani, da insomma dei cani non li ha mangiati delle, delle figure che escono dalle cucce, dalle stalle, dai vari nascondigli, figure che escono dai cani e disciplinatamente si dispongono in quadrato. Ma perché non l'abbiamo suonato prima? Alla guerra! Per Ron! Aspetta di capire se sono dalla nostra parte prima di fare no, così. No, no. Aspetta. Sono già carico. Lì sotto ci sono 12 mongrel che si dispongono ordinatamente. Mongrel! Difendete la vostra città! Wow! E niente, dai, andiamo a difendere. Non pensate agli altri 50 che abbiamo ucciso. Abbiamo massacrato gli altri. Non loro. E abbiamo scelto i migliori di voi. Abbiamo massacrato gli altri 52. Quelli di voi che sono sopravvissuti sono i migliori. La razza scelta difenderà questa città. Ma che se fin dall'inizio suonavamo il corno non ci attaccava? Non dimmi di no. Zitto. Sei ira, vai, buttati. Abbiamo usato 50 senza motivo. Allora avevano ancora un padrone. Adesso. Adesso sono io. Esatto. Il signore dei cani. Abbiamo usato 52. Bardistran, poi hai ancora del movimento se vuoi. Vado oppure... verso la direzione di cosa. Guidami! Vabbè, quando sta me li seguo. Ah, è vero, tu quale cosa avevi detto? È che aspettavo di vedere cosa facevano. Ok. Verso est anche tu. E dopo c'è Race. Che è lì. Io scendo, ma ovviamente non sono in prima linea. Scendi dove? Scendo dalle mura dove sono i babbuini. Sei l'unico, no? Sei l'unica linea. No, stiamo correndo mongre. Sulle mura. No, dice i mongrel. Io sono già sulle mura. Tu vai dove ci sono i mongrel? Sì, dove sono okay. I mongrel. Però non sto davanti, sto aspetto che nel caso se entra qualcuno lo ingaggiano e poi vado. Sta vicino ai mongrel ma dietro. Ma noi siamo tutti sulle mura, che mongrel, no? No, i mongrel si sono radunati sotto, però cioè, se seguiranno lui che li ha chiamati, beh, è probabile che salgano dalle mura. E fa che si fanno le seghe, così tutti entrano dal portone e il portone è sbarrato e loro sulle mura li guardano. No, non c'è più nessuno, non c'è più nessuno che sta saltando il portone. Tutti quelli della cosa. Quindi adesso dobbiamo affrontare gli zombie che proveranno a salire sui bastioni. Cioè non possono sfondare la porta in nessun modo. Cioè, magari sì, però per il momento c'è una rete invisibile, magari usano quello, ma adesso non potrebbero usare il teschio del Minotauro. Beh, se dovessimo vedere che attaccano molto la porta, abbiamo poi il tempo di scendere. Non c'è più nessuno che in piedi, a parte gli animali di Arce, ecco, quelli potrebbero essere una minaccia. Gli animali lì si sorranno la nostra fanteria, quindi sto invisibile, buona, lì sulle mura. Ok. Si avvicina una epica. Barbistran, cosa fai? Niente, vado anch'io verso. Ciao, Atanas. Ah, sta ancora. Vi ha scambiato perché siete uguali, d'altronde siete così simili. Potreste andare a rubare il flauto. Che flauto. Certo, con 15 punti per vita. Contro Rami. E continuo ad andare dove stanno saltando i bastioni. Ok, corri anche tu. Tu puoi correre di più perché gli altri hanno sempre fatto qualcosa. Tu invece puoi usare tutte e due il movimento e la tua azione se vuoi. No, sì, ma non sono suicida. No, uso un'azione per chiacchierare. E poi... Quindi ti muovi 30 piedi. Vabbè, mi muovo anche degli altri 30. Vai, 60. Quindi sprinti in avanti. Io farò una cosa già vista. Che cosa? Mi allontanerò per andare a recuperare la lancia che ho lasciato indietro. Ma poi in realtà mi vedrete che io continuerò a correre. Ah, cazzo, è vero che non hai la lancia. Sì. Vabbè, in questo momento non me ne farei molto. Quindi Di a qualcuno è andato a prendere. Esatto. Sono arrivato come dei pazzi e noi andremo lì a. Puoi chiedere un mongrel. Esatto. Vai, riporta la bella. Attacca a me? No. Ma se no, scusa, uno dei famigli magari può riportare. Non il topo, ma magari il gufo, sì. Il pipistrello. Toccherebbe a Patrick che penso vi segua con la bava alla bocca. Quanto andrà contro i suoi animali? 47. Ah, lui ha anche messo bene, quindi. Però lui non può più diventare un animale, vero? No. E non può neanche far diventare qualcuno animale. Potrebbe farci una cura. Non so quanti slot abbia e dove è la sua scala. Vabbè, tanto come fatto la cura della sua vita. Quando quando c'è? Viene stasera, sì. Sì. Allora tra poco arriverà. Non ce ne farà mai, approfittiamo. Non so. Ma tanto non penso che gli sia. Sono qua, qua. Ma tanto non penso che gli avessi. No, gli aveva segnato. C'è scritto di fianco espressamente non fare. No, ha messo delle X. Non sporcatemi la scheda. Mi sono rimasti due incantesimi di primo. Tutti quelli di terzo, ma non ha cure di terzo. Segnate. Basta che usi una di primo. Può fare cioè di secondo, di scusa. Sì, lo può fare. Può usare uno di secondo come terzo. Anche se la serie focata sembrerebbe utile. Ma insomma. E hai tre di terzo. In realtà non hai messo così male, allora. Ti prego, giuro. Vabbè, però se... No, non hai tre di terzo, perché è un evoca animali che ho usato. Animali che vanno giù in corpo a corpo a rallentarli. Io e Giulio non duriamo il turno. Ma gli arcieri non ci sono più, giusto? Che non siamo fuori non ci sono arcieri. Finché non ci raggiungono, noi siamo... Non ci possono colpire in nessun modo. Ma quando ci raggiungono, Giulio giuriamo. A meno che gli spaventapasseri non abbiano... Beh, ho capito che da ora in poi terrò io incantesimi di arci. Da solo. Ma io sono a 30, anch'io. Abbiamo due turni per cui ci può fare delle cure. Cioè, nel senso... lo farebbe, dai. Sì. No, onestamente. Forse lo farebbe. No, beh, sì. Lo promettiamo. No, onestamente sì. Io credo di sì, dai. No, quando le chiedevamo... Hai un persuasion. con triplo svantaggio. No, in realtà lo farebbe, dai. No, quando gli chiediamo le cure, dice chi ha messo peggio, guarda Vezze ride, poi le fa gli altri. Quando? Poi a uno. quando gli chiediamo le cure, quando gli chiediamo le cure, lui di solito si avvicina e poi orso qua. Facci perché? Vabbè, vabbè, dai, facciamo che fa una cura di in questa situazione la farei. Millesimo. No, di secondo, perché se no magari non evoca animali, forse. Ecco, farebbe una roba piccola, ah, però, quello sì. Scusa, evoca animali? Sì, ne avrà pure usato uno. Sì, infatti uno. Però ne ha altri due. Non lo segnavo. Falle di secondo, dai. 11. Dai. Vabbè, vabbè. Sì, a te. Vabbè, vabbè. Cos'è saggezza più 3, 14. Beh, okay. Buono, dai. Mentre... Sei a 31 adesso. Mentre Patrick lo cura, vedete dagli spalti Radin scomparire insieme al suo cavallo. Il suo incubo. Il resto degli zombie e degli spaventapasseri comincia ad avanzare. Però comunque io non ritengo intelligente uccidere tutti questi e poi dover uccidere anche tutti quelli dell'abbazia. Beh, non hai detto, magari cambiano idea su di noi. Certo. Il tizio che mi vuole uccidere cambia idea su di me, sicuramente. Magari la moglie di Strad però prova che tu abbia ucciso uno che voleva uccidere lei. E comunque nel caso voglio deve morire il bambino. Quindi. Sì, lui è una marionetta, però la moglie magari alla fine decide di non ucciderci, perché possiamo tornare utili a Strad. Questo non lo dire muovere. Atanas, tu sei, hai fatto 60 piedi, sì, da S2, quindi sei arrivato qua. E continua a correre 90. Verso... Sì, questi round saranno un po' monotoni. Aspetta, se mi muovo di 30, mm-hmm, sono a 60. Da cosa? Sì. Tu sei dall'angolo? Dall'angolo sei a 90 piedi adesso. Dove sta il secondo gruppo, dove sta attaccando? In mezzo al lato. Ah, cioè sono uno, due, tre, io ho capito. Sì. C'è uno qua. I vertici e la metà del lato. Ok. Cioè sono qua, tipo. Mm-hmm. E io sono qui. Tu sei praticamente. Tu sei partito dalla strada, dalla porta. Dalla, sì, porta, e hai fatto 60 piedi. Quindi sono qua. Quindi sei tipo a metà di quello. Quindi altri 60 arrivo qui. Esatto. Arrivo qua. Ma non le fai 30 e tiri una pietra. La pietra non è un. Quant'è? 50? Un quadretto 50. Adesso sarei utile da super scimmia gigante. Ah, sì, e come abilità ho da lanciare, sì. Ci sono, vabbè, piccole, però comunque sono masse. E Garrosh, appunto, anche tu, che scelte. Cosa avevi fatto nel turno? Avevi lanciato una pietra, quindi sei ancora in S2. Sì, allora mi comincio a muovere, quindi un'azione di movimento di 35. 35, vero? La faccio. E come azione, a meno che non me la consideri gratuita, parlare con un altro personaggio. Mm-hmm. E grido a un mongrel, ai mongrel, mm-hmm, qualcuno mi recuperi la lancia e gli indico dov'è, che dovrebbe vedersi la zona dov'è, perché da lì è dritta, okay, la strada verso la piazza, giusto? Quindi quello che mi sembra un po' più sveglio dico: ehi tu, se è solo questo puoi farlo mentre stai correndo. Ok, allora sì. Il punto è che i mongrel guardano con la lingua di fuori tutti quanti su. È il loro nuovo dio. Lo so, sei il nuovo dio dei mondi. Comunque, cazzo vuoi fare mondi? Comunque l'hanno sentita tutti. Oh, ha sentito anche lui. Grazie. Questo. No, Vez. Vuoi ringraziarti il maschio. Giusto, la sentono tutti questa cosa, anche Vez la sente. Sì, anche Vez. Che cosa? Che io urlo ai mongrel, recuperatemi la lancia e corro anch'io verso i bastioni. Tu l'hai sentita? Cazzo. Poi vedete. La tua lancia, a volte la riprendere a te. Va bene, lo faccio? Lo faccio? Poi mi rompete i coglioni perché è qua la lancia. Che cazzo ci fa la tua lancia? No, sì, no, ti rompo i coglioni, sì, perché sono coglione. Perché era lanciata e non l'ha recuperata. E non è come il martello di Thor che torna dietro. Io riprendo la lancia, babbuino. Vabbè, io l'ho detto urlando, qualcuno verso il mondo. Ci vado io. Vai, bravo. Dice qualcuno che non vede. Recuperatevi la lancia, ma che è? Sfortuna. Sono una droga queste cose. Le vedete? Ma in realtà ce l'avevo un po'. No, sono scadute quindi. Ti direbbe così. Cosa ti perplime? Volete una? Sfortuna, cosa ti perplime? Volete una? Niente. No. Sta a te, Marzo. Basta me. Vediamo, quindi loro stanno andando verso i lupi mannari. No. Beh, che vuol dire? No, no, i lupi mannari sono qua. Fai un crash blast, Marco. Voi non state andando verso i lupi mannari? Ma vedi la mappa? Marco, è crash blast. A sud ci sono i nemici, come dall'altra parte. Qui, qui e qua stanno attaccando gli zombie. E qua? Non li vedo. I mannari sono qua. Noi stiamo andando da qui a qua. Ok. Non posso è l'italiano, ragazzi. Cioè, è vero. Vado anch'io da qui a qua e lancio. Però ci vado lancio qui, qua, e lancio però qua. Ora l'italiano sarebbe da qui a là, non da qui a qua. Perché come vai da qui a qua? No, ok. Non ci vai da qui a qua, non rimani fermo se vai da qui a qua. No, noi stiamo andando da qui a qua. Non è che se lo dici con più passione. No, è che te lo indichi, va bene. Da questo punto a questo punto, da qui a qua. Da questo punto a questo punto è come da qui a qua. Non hai capito, stiamo qui, stiamo andando qua. Ok, mira due zombie, faccio ora che chiaro. Cioè, qui e qua non sono sinonimi. Ma è ancora veramente sì. Yeah. Sono anche fratelli. Va bene. Da qui. Quello sì. Oddio. Va bene. Lasciamo perdere discussioni etimologiche. Da qui a non lì. Ho capito cosa lanci sui zombie Eldritch Blast. Sì. No. Uno faccio 12, l'altro 6. Cioè, ho fatto 15 e 20 per colpire, 12 e 6 di danno. Su due diversi. Mm-hmm. Ok. E sei stato ottimista. Si chiamano zombie di strada. I raggi di energia si infrangono sulle loro carni molli, lacerandole, ma continuano imperterriti ad avanzare. Nel senso che non gli fa danno? No, gli fai danni, ma ne possono incassare di più di così. Ripetimi quanti? Più di quelli. 150 12 e 6, ok. No, ne posso mica costare di più. Ok. Quindi è un numero, okay, che sia maggiore di 12 sia maggiore di 6. Come faccio a disegnare? È che è qua. Allora, comunque, qui indica un luogo molto vicino all'interlocutore. Qua è un luogo vicino, ma meno preciso di qui. Vicino. Quindi io mi posso dire qui e qua. Immagino vai avanti di altri 30 piedi. Anche perché considerate che c'è chi può dire. Noi siamo in questo punto. E qui e qua sono due luoghi vicini. C'è anche chi può dire startare un fight, quindi puoi dire più o meno qualunque cosa. No, no, è anche corretto in italiano. Vabbè. Faccia di cazzo. Casimir sprinta in avanti dicendo... Cazzo qui, cazzo qui. Presto, la nostra unica possibilità è tenerli sotto le mura. Bravo. Mi aspettavo forse di scappare. No, l'unica possibilità è che spari delle gran palle di fuoco, Casimir. Sti cazzi. E deve arrivare in gittata. Ah. Sta in gittata in visuale. Allora lancia lui! Lancia in gittata! Ho capito, deve arrivare in città. Mi stavo preoccupando su dove fosse finito. Wild Magic! Ha finito su un altro piano. Dov'è? Al quinto combattimento della giornata. Guarda a destra. Mardistran. Oh! Seguitemi! Ignorate le lance! Ignorate le lance! No, beh, che a parte non è il momento. No, ma lui ovviamente lasciamo stare l'iniziativa, nel senso, lui ha detto ci vado io. Essendo tecnicamente tutto in contemporanea, si gioca come iniziativa. Sì, una voce dal nulla ti ha detto ci vado io. Puoi non andarci, Sala, tanto se... Ci vado io. Poi no, tu non sai se sto andando, perché sono invisibile, ma questo altro. E poi anche sentito, io sono qui, qui, qui, pure qua, qua, qua. Quindi corri dritto tu, Bardistran. Cioè, sì, nel senso, il modo da restare sulle mura, però. No, no, ancora è dritto. Cadi di 8 piedi. Cosa? Quando arriva qui dove c'è un interiore. No, sono 7 perché cadi sopra un mannaro. Ci sono oggetti. Non mi ricordo se. Ah, vabbè, dal bastione forse troveremo qualche cosa di difesa, forse. Le tipo pietre. Le rocce, le pietre. Sì, qualcuno ce n'è sparso lungo la lunghezza della mura. Meno di quelle che c'erano. Ho giù due movimenti. Perché non dice Monger di tipo perfetto. Preparare dell'olio bollente? C'è 90 piedi. Tipo in sala la butta, metti un po' di sale. Un po' d'aceto. Resto col sale! Race! Accendimi il microfono. È verosimile che il mio pipistrello alzi la lancia, no? No, è grosso, è pesante. Allora vado e non a muscoli, trovare questa cazzo di lancia. Ok. Considera che io mi muovo un po' più veloce. Di 90 piedi. No, più il movimento bonus. E fai, se ti muovi di 30, hai il movimento, l'azione, il movimento bonus, fai 90 piedi. Bravissimo. Grazie. Vedi che ho studiato anch'io. Punk. Però se devi questo raggiungere che qua, di solito c'è un aspetto relativo. Però, scusami, 90 era tipo così. Un quadretto sono no. 50. Sono quasi due quadretti, sono un po' meno di due quadretti. No? Quindi un quadretto 50. Okay. Al, prossimo turno ci arrivi. Ci sei quasi. Puoi fregare la lancia di Sceo? No, non sì, è quello che farò. Allora, forse il pipistrello non può sollevare la lancia. Ma tu puoi sollevare il pipistrello. Ma può sollevare te che sollevi la lancia! Padron. Esatto. Cosa fa Pat? Ci segue. Okay. Cura Giulio. No, ah, giusto. Non so se ne farebbe addirittura. No, ma io sono troppo lontano. Già 120 piedi. Sono troppo lontano. No, come? Cosa è successo? Perché sei rimasto indietro? No, sono forse in avanti. È a 90 piedi da Pat. Sono più avanti di voi. Fermati! Qua! Fermati qua! Noi siamo qui, lui è qua. Esatto. Ed è vero, rispetto a quello che è così. Fagli evocare, creare. Atmosfere. Vai dopo. I suoi animali si muovono. Non quel carino. Ma sfrutta un incantesimo in più, creali. No, perché se ne creo di nuovi quelli per quelli. Ah, cazzo. Ok. Zombie avanza. Non ci sta di però ormai ci siamo. Abbiamo raggiunto la posizione. Allora, voi siete arrivati qua a ridosso della prima posizione. Qui. Però loro arrivano fino a qua. Non sono qua. Allora, no, qua era questo, no? Allora. No. Qua. Non ho mai definito quest'altro punto no, qua. Tu hai detto che loro sono da qui a qua. Questo. Era Q. Questo è Q. Io ho detto chiaramente Q. Io ho detto che ci spostavamo da qui a qua. No, tu hai detto i nemici sono da qui a qua. Non l'ho mai detto. Io ho detto che noi ci stavamo spostando da qui a qua. E allora a questo punto. Ma chi è più avanti quindi? Qui c'ero io. No, qui è qui. Non è qui. Dopo. Qui non può spostarsi. Aspetta. E Athena sia il primo. Ragazzi, ci sono molteplici qui. Scegli di uno. Mi muovo. No. Dobbiamo movimento. Fare le tre posizioni. Ci dividiamo. Purtroppo. Quindi sei. Dovrei essere ingittata. Dobbiamo essere anche più o meno equilibrati. Sei nell'angolo. Ah, sono nell'angolo. Qui. Ah, quindi sono allo stesso punto però. Ma allora sono per un po'. 30 piedi più indietro. Ah, sono più qua. Vabbè. Però allora non già più indietro, sì. No, io parto dall'angolo. Sì. Ah, ok. Vabbè, carta, magari faccio un movimento. Possiamo... Faccio un movimento, mm-hmm. 30 piedi, e poi dovrei essere ingittata, no? Per cosa? Però basta. In teoria già dall'angolo lo sai, ci sono già dei nemici nell'angolo. Non mi ricordo quanto è la portata della balestra, però. 60-80. Cioè, ci sei già da qui perché. Però sì, ci sei. Adesso, a parte le battute su qui e qua, loro da qui a qui vanno. Loro stanno arrivando così, no? Da questo a codesto punto, giusto? Da quello a questo. Cioè, loro occupano tutto questo lato, quindi già qui puoi colpire. Merda. Ma occupano tutto il lato? Sì, noi l'abbiamo finito per darti l'idea. Occupano tutto il lato o si stanno concentrando in un punto? Mi conto che partendo da la zona in cui sono spuntati, ci stanno incanalando verso questi tre punti. Mm, ok, puntano i tre bastioni. Sì, ma cioè, nel senso, stanno incanalando verso un punto, non verso tre ognuno punti. Verso. Sono tre punti. Giulio, qui, qua e qua. Scusa, qui, qua e qua. Dai. No, davvero è così, però in tre punti così davvero. I due vertici e metà. Allora. Ah, i due. Sì. Avevo capito uno. No, era. Tu sarai capitano qua. Io sarò capitano qua e io sarò capitano qui. Io mi muovo più avanti o meno qua. Sì. Ah, ci sta, veramente quelli ti fai cura. Però mi fai uno sparo. Io vado a uno che vedo. Uh-huh. Ci sono i zombie. Non posso sparare. Aspetta, posso cosa? Ho zombie. No, io non ho niente a sparare, io continuo con le pietre. Bam, critico. Ho comunque un più 6 ai danni. Della H distanza. Sì, sì. Credo che qualsiasi attacco. Uh-huh. Guardami un attimo in guerriero. Ma sì, quasi città. No, beh, se no non avrebbe senso. Non avrebbe senso. Che cosa? Non avrebbe senso. Che mi raddoppia. Che lui debba usare la sua proficiency. Che... No, che mi raddoppia il critico. Ok, sì. Ma io la uso. Esatto. Cioè, la usa. Anzi, quasi la triplica quasi. Ah, se il 19 è critico per qualunque cosa. Dovrebbe essere. Anche 18, secondo me. Non so, Weapon. Sì, Weapon. È un'arma, no? Non funziona se dai dei pugni. Ma anche pugni in un certo senso, no? All'estero, tu morirai. 13, Pietro. Ok. Iniziamo a segnarci i ritardi della palestra. danno penetrante. Ok. Se 12 frecce. Forse è stato un po'. Ok. E questo era Athanas Garrosh. I zombie non richiedono armi magiche, no? I danni che vedete prendere li prendono tutti. E che ne hanno ancora della parte. Io ho fatto 70 piedi giusto prima. Quindi sono a per primo. Sei 70 piedi dalla punto di partenza. Quindi quanto mi arriva per arrivare al primo bastione? Il primo bastione a 120. Quindi sei a 50. Questo era uno zombie. E niente, non posso fare niente se non arrivare al primo bastione. Bravo. Hai la lancia? Puoi anche superarlo. Sì, io continuo lancia. Dritto, dai. Vedo che lui si è fermato qui, proseguo. Ok. Non si passa. Tu, no, arriva a 10 piedi alle tue calcagna. Via dopo. No, lo supero, hai detto. Lui si è fermato al primo bastione. Sì, ma io ero molto più avanti di voi. Poi tre da piedi in avanti, lui l'ha fatto, no? L'ha superato il primo bastione. Ah, poi ha superato il primo bastione. Uh-huh. Okay. Sfortuna. Ok, io dico al mio topo di andare a prendere il libro degli incantesimi della strega. Ok. Di andarlo a cercare, di aspettare il mio segnale. Poi mi muovo altri 30 piedi nella direzione di Athanas. Sì. E lancio altri due Eldritch Blast ad altri due zombie diversi. Splitti gli attacchi. Scusa, lanciali sullo stesso. Così almeno vediamo quant'è. E dopo che abbiamo visto che ho 80 punti ferite, se me ne iniziamo a lanciare il mongre giù, li lancio agli stessi due. Con 13 e 11. Colpiscono. Ragazzi, hanno classe armatura 8. Immagino che basta che non facciate uno. Ok, il primo 7 e il secondo 11. Danni? Mm-hmm. Sullo stesso? No, sono due diversi. Ok. Quelli di prima. Vabbè, sta colpendo sempre gli stessi 7 e il secondo 11. Ok. Muoiono? No. Cioè, rimuoiono. Quindi uno a 19 e l'altro a 17. Ok. Casimir è a 90. Oh, cioè, domanda, questi sono i classici zombie mangiacervelli? Che nel caso sono a posto. Mi avete preso per il culo sulla mia intelligenza. Quindi ti lanciamo. La particolarità di questi zombie, se ne hanno una, è quella di avere delle strane articolazioni. Le strade. Strane articolazioni. Perché sono gli zombie di strad. Gli arti con le ritorti in modo al contrario. Vabbè, sono morti male, diciamo questo, cioè, nel senso. Contorsionisti. Sì, cioè tipo uno che cammina tipo invece che con due gambe, un braccio e una gamba. Vabbè, sono morti male adesso. Ah, sono dei contorsionisti. Sono dei zombie mongrel, insomma. non vedete parti animali. Non temete i vostri. Dei zongrel. Dei zongrel. Zongrel. Oh, Casimir arriva al primo bastione. Tocca giù. Palla di fuoco. Cosa di no. Sbaglia la palla di fuoco, fa un varco nel muro. Esatto, quello di polo. 120, sì. Ma c'è qualche musica in sottofondo? Quella della sigla, chiaramente. Anche. No, arriva tra poco, arriva il drago. Ok, abbiamo finito le cure, ragazzi. Sì. Giulio, veloce. Arriva la cura! Arriva tre cure! 15 cure! E gli devo lanciare. Sì, diglielo però. Troppo tardi. Adesso, troppo tardi. Smettete di lanciare gli immondizi sessuali tutte le sere, tutti i lunedì sera, porca puttana. Arriva dopo. C'è povero uomo. Arriva dopo. Lui arriva e gli arriva un sacco di immondizie in testa. L'ha presa bene. No, rega, attenti però. Ma basta che glielo metti nei cosi, nell'ascensore. Ha ragione Arci. Beh, siamo per l'ambiente noi, non sprechiamo energia elettrica in questo modo. Cazzo me ne frega di casa di Venezia, lo spago qua. Presto, presto, presto, cura di Arci. Cura, cura. Aspetta. Deve essere andata bene. L'hai ucciso. Piano perfettamente riuscito. Chissà. L'hai ucciso. Perché avevi sentito il tonfo e poi quindi... Vai, abbiamo guadagnato un po' di tempo, perdo. È appena stato. Starci. Starci, vero? No, sta Casimir. Cazzo. Che vi dicevo, arriva dal bastione, guarda l'orda che sta avanzando sotto di lui e quindi senza battere ciglio comincia di nuovo ad incantare le fiamme tra le sue mani. E spara un'altra palla di fuoco. Guarda come gode con un PNG che compra. L'alleato l'ho preso io. Questa volta li dovrò tirare. No, morto. Prendi la media. Morti. Media alta, però. Quanti di 6 sono? Poco sono 8 di 8. Te li diciamo noi. Li lancia a noi, dai, chiatta. Perché il primo minchia che non mangia le croste? Ah, era Sceo. E guardate, c'è una cosa. Saranno 28. Non mi ha tirato il bidone. Hai presa? Ha mangiato loro. Non ragazzi. Ciao. Ciao. Basta, puoi lanciare noi. No, cazzo. 8 di 6. Ah, di 6 o di 8? Di 6. Cazzo. Ecco perché faceva così male l'altro. Da dove vengo io? Allora, Saladini 52. Quella che ci hai tirato in testa l'altra volta. Era molto più com'è? Sembra uguale all'altra, ma più grande. 4. Ma va. Però mi guardo meglio le 28. Mi guardo meglio, cioè, le magari 52. Allora, aspetta. Cazzo. Hai capito, vero? È vero. Sì, quando tirava quella velocità, tirava di 8 quando dovevano essere di 6. Ora che lui lo deve usare contro il mio. Ah no, è vero, vabbè, sono solo di 6. Gli avrebbe uccisi con la barra, quella per far venire le impostazioni di sì, fuori. Eccoli. Rapida. Le come si fa venire fuori? Non ho tirato nessuna palla di fuoco. Scusa, è 8 di 6, qui. No, quella è 8 di 6. Non lo so. Ah, è questa. E tirandoli io ne tiro gli uno. No. Un'altra roba. Se tipo ti è scomodo salire, andare fino in alto. Se fai così, scendi 10, 10. 15, 18. Ah no, se quella la faccio. Ah no, perché non c'è il tasto. 24. Mio. La media era? Media. Come che fai? Vai con la media. 24. Se tu lo tiri giù da sotto, viene giù tutto. Ah, ok. Questo non c'è più. E ti pesa il culo, tira sul dito. No, no, vabbè. Tranquillo. Vabbè. Quando tre volte non aveva fatto tipo 40 la palla di fuoco. Sì, cioè, sì, avevo un po' sbagliato il dado da tirare. Cioè, gigantesco. Perché c'ho anche preso la cover da lancio. 8 di 8 invece che 8 di 6. Ho preso la cover da lancio. E ho fatto un tiro della Madonna. Quello che così puoi lanciare il cellulare sotto i portici. Sotto i portici. Tu scherzi, ma il 7 mi è caduto un botto di volte e in perfetti sì. È diversa la mia. Sì, è diversa. Tu hai quella più rigida. Ma ho fatto meno gommoso. 29 però. Chi tocca? Allora, aspetta, c'è il vostro amico che vi sta cercando di salvare il culo. Giulio ti fa un breve. Ah, però mi sembra. Siamo riusciti a usarti per una cura. No. Vabbè, io avevo già curato Marco. No. Sì. Dell'animale, come avete fatto a curare? No, non eri un animale, perché avevi evocato animali fuori dal portone. No, ah, vero, mangiare. Ok. Ah, vabbè, trovate per quella cura, va bene. Su Vez, no, sì, è un po' sprecato. Un altro però. Su Giulio. A me servirebbe. Sì. Merda. Stai calmo. Siamo lo stai prendendo qua, non mi fai curare. Ah, Giulio ti fa un breve riassunto. Niente, è arrivato. Io è rimasto a Radica, ha avvocato tutta quella roba lì. I lupi hanno seguito. I PNG hanno seccato la strega. Sì. Sala si è trovato lì, non so per cosa fare. È tornato indietro. No. In realtà l'ha fatto perdere sulle bolle. Okay. I PNG sono venuti inseguiti da dei lupi e tutti gli altri stanno venendo dai lupi? Dai mannari. Mannari. Ah, ok. Tutti gli altri stanno venendo contro i bastioni. Kevin ha distrutto gli scheletri con una palla di fuoco. Ah. E noi ci stiamo tutti spostando verso gli altri però, punti che stanno venendo attaccati. E quello che sta sfondando la porta craniata gigante, chi era? È il Minotauro scheletro morto. Ah, con i mondri sono con noi. Però aspetta, ci sono gli spaventapasseri, quindi che vengono da noi, e ci sono aggiunti una cinquantina, giusto? Di zombie. Ah, no, sono seguito. Ah, no. Sì, evocati da Radic e poi è sparito. Ok. Quindi ovviamente si è reso invisibile o se quindi ora noi siamo... Ma la botta è tranquilla. Arriva in mezzo a noi mentre combattiamo. Ah, vabbè, allora siamo sempre sulla sala tranquilla. Dove lo numero non conterà nulla, sulle mura, no? Sì, certo. Stiamo gestendo un assedio, ancora lì. Il piano è quello. I miei lupi sono ancora tutti vivi? Ne sono... No, hai quattro lupi e un serpente. Ne è morto uno e un... Però hanno seccato il Minotauro. Il Minotauro è stato vaporizzato una palla di fuoco, però. I miei lupi no, wow. Non tutti, sono arrivati 4 lupi e un serpente. Beh, 5 su 8, wow. Sì, erano più verso le mura, quindi non sono tutti stati coinvolti nell'esplosione. Attaccati! Adesso in pratica, tu compreso, stiamo andando tutti in questa direzione perché ora i nemici si stanno dividendo qui e qua. E qua, e qua. È un discorso lungo. Perché si va da qui a qua in mezzo c'è po'. Vabbè. No, comunque sono 1, 2, 3 punti, quindi adesso ci divideremo. Radin ha sparato la palla di fuoco qua. Ha incenerito 3 spaventapasseri. Possiamo rifugiarci, aspettare che viene Kevin. Qua e qua. Comunque è Kevin. Casimir. Kevin. Perché hai detto Radin. No. Di nuovo. Sì. Non possiamo rifugiarci, aspettare che i tre piani. Quello che avevo pensato, però deve essere che dobbiamo combattere. Vabbè, quello si mette a sparare palle di fuoco potenti, dai, ci danno. E ha incenerito i 3 zombie che avevate ferito prima. E che lastittone. Esatto. E un'altra decina è tutta sbruciacchiata, che però continua ancora ad avanzare sulle sue gambe, braccia o quello che è. Okay. E, detto questo, Vardistran. E io, scusami? Sei dopo di... Race, poi siete. Perché hai scritto 30 precino 90 il mio personaggio? È il movimento che hai fatto. Vai, uso 2 movimenti e arrivo più in là che posso. Quanto vita ho io, Giulio? 47. E portando con me Mongre. Devo curare voi. Per credere. E no, 15. Solo me, ho capito. Ok. Sono allora, tu fai 60, arrivi 15 su 68. Beh, ma io le cure. Anzi, 69. Arrivi pari ad Atanas. Ah, e okay. Tu sai fare se stai combattendo, no? Tutti sono avanti e dovrò combattere. Tutti combatteremo adesso. Si spera non troppo presto, corpo a corpo, in realtà. Cioè, calcola che adesso loro sono. Ancora mi avete usato una approccio. Una dei secondi. Secondo me l'avete segnato. L'ho segnata io qua, se non te l'ho segnata io. Ok. Una sola di secondo. Una di secondo. 2 di 8. E i mongre salgono sulle mura e vengono, gli vengono dietro. Quindi sono. Magari non gialla vero. Poi non cerco una con la punta migliore. Trace. Continua a correre verso la lancia del Barbieri. Nella mattina di Vez, quella che Vez non vuole più. Arrivi a prendere la lancia dopo il tuo movimento. No, quella che Vez non vuole più. Vabbè, quella. Mi giro e torno in... Ottima scelta. Bravo. Immagino che qua non ci sia nessuno, tranne gente che vuole uccidermi. Te la da lui, quello. Beh, tanto sei visibile. Sono invisibile, no. Sì. E quindi vedi intorno a te gente spaventata che... Il preda al panico non sa che cosa fare. E vabbè, certo... ma la lancia diventa invisibile con me, no? No. Sì. Vabbè, allora vado, ciao. Prendimi in braccio, scusa. Lui intanto è andato a... Lui è giù. A lottare. Per recuperare la mia lancia. Sopra di me. Ah, io tengo in mano il pipistrello che tiene in mano la lancia. Va bene. Come? Che? Ha lottato. Perché? Ha lottato. Sulle mura. Sì, ah, non si dice. Ha finalmente stampato la mappa che avete messo. Ha fatto un lutto. Un chai. Devo dire ha luttato, Ha fatto tesoro. Oh. Avrà mangiato pesante. Noi state tutti correndo in questa direzione. Tesoro. Stanno andando verso tesorato. Questo punto verso questo punto. Vabbè, curo Giulio. Giulio è non lo curo. Piedi da te. Perché 60 piedi? Perché ha corso più veloce. Per allontanarsi dalle mie cose. Esatto. quindi fai due movimenti e non lo curo. Non lo curo. Basta vai, che Giulio. Mi curi prima no, o poi. Vai, no, ah no, è a distanza la cura. No? In questo gioco di merda. È a distanza guarda, adesso. Ce ne sono due di cura. Quella normale che è a contatto e quella come azione bonus che è a 30 piedi. Quella io. No, se no puoi fare 30 piedi e fare qualcosa, poi altri 30 piedi dopo curarlo. Che è la stessa cosa, no? Sì, mi sa che mi curi, poi tra adesso, tra un turno, tra due, cambia poco. Spero che cambi poco. Faccio 30 piedi verso Giulio. Ok. E chi c'è da focussare giù dalle mura? Ci sono una quarantina di zombie. Ma e stiamo dei... già focussando, quindi sfiocci. Ora sfiocci. Focussando cosa vuol dire? E degli stiamo prendendo di mira. Fiddlestick jungle. Io esatto. Tiro su il mio dardino. Su... è gerundio di focus. Tiro il mio dardino. Su. Sulla bottiglia. No, su uno zombie. C'è un capo zombie, tipo. Uno che mi sembra un po' più grosso degli altri. Sono tutti grossi. Vabbè. 6 hanno 8 di più... ce ne sono una decina sbruciacchiate dalla palla di fuoco per forza hanno 8 di classe armatura al 7 faccio 3 di 8 vero? Mi sembra strano anche a me ci ho provato 2 di 8 cosa facendo? Tanto attaccare 13 danni dobbiamo farti una cura non ci arrivi non ci arrivi perché giusto allora, fare 60 piedi non fare niente ha fatto 30 piedi spara poi 30 piedi sono una decina sbruciacchiati dalla palla di fuoco cerco di seccare male quelli posso? No, sì. No. Pure. Morti. Ok, e poi i miei lupi toccano dopo di me, no? Sì. Agiscono insieme a te. Riesco ad andare sugli zombie. Vanno anche loro su quelli sbruciacchiati. Ok. Abbiamo ucciso qualche zombie. Sì. Sì. Adesso quanto hanno più o meno? Boh, perché sono stati colpiti da palla di fuoco di qua. Okay. Che cazzo? Allora. Primo lupo. Una quarantina ti vabbè. Hanno 8 di classe becca. Secondo lupo, becca. Terzo lupo, becca. Quarto lupo, becca. Serpente non ha vantaggio. La becca. Quindi sono. Xalla tirami con l'applicazione. 8 no. Di 4. Non tiro, che l'altra volta si è aumentata la tira. Ma perché li devi dividere? Dai, te ce li abbiamo. Li vuoi accanirti su un cadavere? Ah no, dividere gli attacchi molto male i zombie. Il bello dei dadi. Allora no, niente, Salla, come non detto. Quanto vuoi tirare? Dammi 2 di 4. Bello dei dadi tirare. Al primo lupo un 30 fa 7-9 danni a 1. Morto. Ok. Secondo lupo uguale 9 danni. Morto. Terzo lupo 7 danni. Morto. Quarto lupo 6 danni. E poi c'è il serpente, quanti cazzi di anni fa il serpente? Qua qua. Ora sono le mostre. È 2 di 8. Sì. Il lupo fa 2 di 4, arriva la biscia 2 di 8. L'anaconda è arrivata. O 1 di 8, non so. Dragoso. Era di 8. Sì, ma era su... C'era qua. Guarda, sì. Il poison, no? No. No. Perché io cosa un D8. Vabbè, c'era il D8. Vabbè, ne tiro due con svantaggio. Allora, tre danni. Tanto ancora vivo. Che schifo di serpente di merda. Più 4. Quindi hai tirato uno per far tre danni. Sì. Quanti zombie abbiamo ucciso? Allora. Adesso ne ho seccati tipo 6 di quelli in mezzo moribondi. Sì. Ne rimangono, quindi. Quanti ne ho uccisi, Katta? 1, 2, 3, 4, 5. È quello che ho saltato io. Ah no, 5. Dai, dai, dai, dai. Rimangono solo 45, dai. Boh, se gli diamo 5 a testa, ci beh, abbiamo anche 12 mogli da difendere. Non ho sì, visto. È vero, ha suonato un corno. 12 mogli. 12 mogli. Abbiamo 12 mogli. 12 mogli rispondono a lui. Sulla cassa del morto. 13. Adesso devo fare l'inseguimento a Giulio mentre scappa dalle cure. Curami, Arci. Giulio, sono 13. Aspetta, curami, Arci. Sono 13. Sono 13, Vardistra. Oh. Tocca a me. Bene. Finalmente. Lupi. Arrivano sotto le mura. Sotto. Ma la porta è chiusa. Oh no. Cioè, qua non c'è nessuna porta. Cominciano a mangiare le mura. Non avete letto Hansel e Gretel, lo fanno tutto di mezza fame. Fanno le mura di corpi. Cosa? Forse non era una buona di idea. Di cervelli. State camminando su mura di zombie. E si arrivano anche loro. Lo sono tipo incatenati. Passare che sono più veloci e arrivano per primi sotto le mura. Tipo la mafia, no? Che mette la gente nel cemento e la butta in mano. Fa le mura di persone. Fa le mura di persone, con le persone dentro. Ah, è molto creepy come cosa. Il primo spaventa passare arriva sotto le mura. Unisce le gambe e si mette in questa posizione. E vola. Il secondo arriva dietro di lui. Lo prende, se lo mette qui, l'ho detto, l'hai visto, e fa così, così con le braccia. Palestrato. Poi arriva, perché sono di legno, quindi pesano poco. E arriva il terzo. Sono di legno! Sono di legno? Sono di legno! Spaventa passare con cosa li fa? Ah, avevo capito gli zombie. Vai, vai. Che ah, è vero! Sono di legno! Sono di legno! Zombie di paglia, che bevono la paglia. La tua ascia! Sono di legno! Tutto bene. Mi sa che quello è. L'hai detto, eh? L'hai detto, non te lo puoi rimangiare. Non te lo puoi rimangiare. No, l'ascia magica che fa più danno contro. Vabbè, contro le creature di legno. Ma che cazzo di ascia di merda c'hai? Sì, l'ascia del boscaiolo. Esatto. Finché non incontri, devi spaventapassi. Cioè, quando hai detto culo vezzi intendi dalle malattie mentali. Sì, pensavo che tu dovessi dare fuoco, ma adesso ho capito. Sì, volevo dare fuoco. Io pensavo quello. No, all'inizio volevo dare fuoco, poi ha detto sono di legno, quindi gli diamo fuoco. Poi io mi ha detto, cioè, abbiamo un'ascia che fa più danno. Io lo spadone lo lancio. Se no non avrei fatto specificamente a Vez sono di legno, avrei detto sono di legno. Quanti erano gli spaventapasti, te lo ricordo? Una decina, 10-11. Ah, penso di uno sopra l'altro, uno sopra l'altro. Ecco, ci siamo! No, fermo! Sopra, no! No! Puoi fare un unico attacco dal primo in giù. Lanciandoti. Sala si può togliere questa merda. Che cos'è quella merda? È il codice se non becco la faccia. Ma non puoi non beccare la faccia? Che no. Però voglio fare in modo che se uno non ha la mia faccia non può prenderlo. No. No, non ci può fare. Cioè, no. Per forza questo secondo tentativo. Guarda che cazzo serve la mia faccia. Vabbè, devo dire, c'è sempre un più. Ma è che la tua faccia interiore è immediata. Se voi non riconosci la tua faccia, come fai? È per dire che se me lo ruba uno stronzo e ci becca il codice, me lo sblocca. Invece se non ha la mia faccia, a meno che non mi ammazzi. Se tu stai male, io devo fare una telefonata d'emergenza, deve essere una passione. Scusa un attimo, se io sto male e tu ti fai una chiamata di emergenza, pensi di metterti a cercare il codice? C'è la cosa di emergenza magari apposta, no, la persona che vive con te magari lo sa. Ah no, ma quella chiamata di emergenza può fare. No, certo che non lo sanno tutti il tuo codice effettivamente. Oh mio Dio, sto morendo! Proviamo! È impossibile! Basta che ti impari la faccia! Oh mio Dio, sto morendo! Qual è il tuo codice? 1, 3, 4, perché ho scelto 8, 5? comunque, vi dicevo, i spaventapasseri si dispongono praticamente a scala uno sopra l'altro. E quando arrivano a... Questo è tipo il Megazord. Quando se ne mettono 5 in fila, quello in alto si aggrappa agli spalti. Vai, sta bene. Quanti ne servono per arrivare? 5. Il quinto arriva. Il quinto arriva e qua, i zombie cominciano a salire in alto. Su questi spaventapasseri di legno. Siamo tutti pasteri di legno. Dobbiamo buttarli giù. Esatto. Di legno. Avete un incantesimo per trasformare gli zombie in legno? Buttalo giù. Sono vicino a me, se scappi di un altro piede, io non ti curo. Te lo sono lì, no? In realtà, quelli che avete bersagliato non hanno abbastanza per spaventapasseri per salire in questo punto. Perché la palla di fuoco ne ha inceneriti. Che è dove siamo? Che è dove siete. Cazzo, e quindi non sono da dove siamo noi. Sono quelli a metà. Queste altre due stanno salendo a metà e alla fine. Ma vanno piano, metà del loro movimento per salire, per scalare. Sì, va bene, ma... 10. Sì, sì. Provo a lanciare... una torcia. Le mura sono 50 piedi. Allora, 100 piedi. Tu sei 150 piedi dalla partenza. E questo punto è 20.000 piedi. In teoria sono più o meno... È 80 piedi da te questo punto. Quante sono dovrei essere più o meno qua. Quanto sono 80 piedi da te. 20 piedi. Faccio una grande prova di athletics. Per fare cosa? Per lanciare una torcia. Di tipo la pubblicità della Apple. Esatto. Si spegne con la pioggia. Ah, è vero. No, perché c'è dell'olio. No, dico, farei un tiro talmente buono che si sfide. 20. Ah, prova, l'idea è buona. Tu hai svantaggio. Quindi scusa la tua idea, eh? Lanciare una torcia sugli spaventapasseri. Accesa. Ma non hai proficienza. Specifica accesa. Che... Faccio un athletics. Specifica che è meglio accesa, una freccia incendiaria. Una torcia accesa, ovviamente. È meglio una freccia esplosiva con una palla di fuoco. Ma non ce l'ho. No, c'è una palla di fuoco, Giulio. Potremmo... Immagino, cioè, il massimo che posso fare è un dardo, ma il dardo da balestra non prende. Immagino che prima tu vada avanti di 30 piedi per avvicinarti. Oh, okay. Verso di me, però vieni. No, perché devo aspettare che mi arrivi e curi. Vuoi aspettare il suo turno per reagire? Ok, aspetto che mi curi. Garrosh, dove sono? Sei al 140esimo piede. Dire. Dopo 20 sei piedi qua. Dopo tra qui e qua. 20 piedi dopo qui. C'è un punto relativamente... Ah, beh, no, vado verso... Tu vai, va. In realtà non sei più in ira. Beh, in realtà Salla... E ho lanciato la pietra. Adesso col telefono appoggiato, a meno che non faccio così. Prima ho fatto danni con la pietra, quindi la mia ira può continuare. Adesso? Sì. Vabbè, se in questo turno non subisco, non faccio danni, la mia ira... Vabbè, al massimo torno in ira, non è cosa problema. E quanti piedi quindi mi mancano per il primo spaventapasseri a peso? Il primo spaventapasseri a peso è a... 90 piedi da te. Schmel. E fai 70. Ne faccio 70 e sì, ci vediamo al prossimo turno. Oppure solo che però se ne faccio 35 dopo al prossimo turno comunque non ce l'avrò. Oppure niente. No, per il fatto aspetta, fammi ragionare. Va bene, intanto che ragioni, sfortuna, pensa no, cosa no, vuoi fare. Ho finito di ragionare, niente, faccio. Vai dritto, non posso fare altro, sì. Devo lanciare un'accetta, ma non ha molto senso. Quindi fai 70 piedi dritto, sì. 210, sei a 20 piedi dalla scala. Ma adesso il barbaro non ha più un limite di ire, c'è cioè sempre il limite. Sì, ce l'ha. Sì, ho 4 al giorno. Sfortuna. Io dove mi trovo? Tu ti trovi ancora nel lato sud. Vicino sì. alla curva, cioè cosa? Al primo bastione. All'angolo, al primo angolo. Ok, allora faccio fare al mio famiglio un dash per andare più veloce a prendere il libro. Uno scatto. Ah sì. Quindi... Poi vado 30 piedi nella direzione insieme agli altri e lancio due Eldritch Blast Lancia una spaventapasse. Ha una spaventapasse. Che gittata ha Eldritch Blast. Sì, Eldritch Blast. Dai. Forse 120 minimo. Ti dico solo, se non che, ha preso altre ti dico solo cose. Che se non andava via Radi, aveva già metà della vita. 120 non può arrivare a 300 se uno becca i cosi giusti. 21 e 14. danni. Sono a colpire. Ti ricordo che hanno classe armatura 8. No, no, ma lo spaventapassere. Ah, lo spaventapassere. Sì, 21 e 14. 21 e 14 colpiscono. Vai, vai. Che è 18 danni. Ok. Beh, se no poteva tirare lì. Ne ha questo? In quella, quello più in basso, se riesco a vedere. È coperto dagli zombie. Ha uno lì in mezzo alla catena, chi se ne frega. Eh no, perché se cade quello più in basso cadono tutti, ha ragione. Quella metà invece. Amore mio. Più in basso riesci, meglio si scioglie e scappa. Allora, quanto hai detto? 18. 18. Se no poteva tirargli 3 tonnellate di terra in testa. Devo portarlo sulle mura prima. Però forse rimangono attaccati. Sì, non avrei fatto su quello attaccato al muro. Così un altro da scambiare. Uguale. Ok. No, perché quello che si è attaccato alle mura rimane attaccato alle mura. Sì, ma tanto non funge più da scala, però. Ma in realtà qui se Kevin ha ancora una pala di fuoco. Piedi. Cioè, ma secondo te mi fa venire. Casimir! Mi fa venire. Adesso scappa. Parte la cinematica e muore. Se una pala di fuoco verticale. Casimir, Casimir, Casimir. Abbiamo delle. Sì, delle bocciottine. Sono un po' tardi per mangiare. Avanti col pepe! Tu, se non avessi gli orologi, non capiresti neanche cosa è, quindi è uguale. Esatto. Casimir corre in avanti 30 piedi con il suo movimento. Si sporge dagli spalti per prendere la mira e in quel momento compare su di lui l'incubo con Casimir, con Radin. Sì. Con Radin in sella sopra di lui. E gli dice: ci rivediamo, traditore. No, vale. Attacco di brutalità. Attacco di brutalità. Attacco di brutalità. Tu dove sei? Questo attacco di brutalità. Attacco di brutalità. È in calzo. È in calzo. Sei di fianco a lui. Purtro di caccato che su 15 bersagli di legno arrivi l'unico che non è di legno. Ho ancora lo spadone. Johnny, che peccato. Ho ancora il mio spadone. Posso colpire? Attacco di brutalità. Puoi colpire la botola, Vez. Sfondala. Arrivo subito. Portuno. Brucia la botola. No, perché quando l'ho segato. Non colpo. No, Dio, no. 20 più 20 più 20 più 20 20 20 20 20 20 20 20 mortale mortale mortale mortale mortale è finito adesso. Carico butto giù da quando sono andato panca nuova. No, me lo dicevo l'incubo. Lui ha detto che c'è la panca nuova. Scusate, quindi lui c'è la panca vola nuova. L'incubo vola, l'incubo vola. Ah. E compare ed è comparso dal nulla. Allora bisogna uccidere l'incubo e buttare giù lui. Potrebbe c'è luce, sono nero. Sì, sì. Ok. Cosa? Tu ascolta un incubo. Ve ne accorgete anche perché a quanto pare questo cavallino emana luce intorno a sé per le fiamme che lo avvolgono. Stai parlando del mio iPhone, sta credendo che tu mi lasci. Ciao. Ciao. Scusa gatta. Gatta, perché hai il riporto? La batteria. Si può leggere il numero perché non me lo trovo. No. Sono venuto in motorino, quindi questo è l'effetto che mi fai. Non è un riporto, non è un riporto. Adesso si vede. Giù a destra. È l'unico modo, l'han tolta. Non è un riporto. Stiamo trasmettendo, ma non vedo i messaggi purtroppo. Ok, vedete dopo di rispondere, però poi. Dopo ci guardo, solo che devi fare Devi farla diretta. Tu parli. Alessia sta scritto. Ho scritto un gioco per ognuno di voi. Con chi messaggia Giulio? Con nessuno. Ma chi cazzo è che chiama Giulio? Alessia Asta. La ragazza di Paolo. Che a quanto pare la madre di Vex. Con tutti questi messaggi che credeva di prendersi. Voglio ridere anch'io. Sarà il nostro primo. Ciao. Rischia di beccarsi davvero, ricordo. Qui qua. Con chi si è messo Giulio? Ha scritto un ciao. No, con per chi messaggio? Voglio ridere. Con chi si è messo Giulio? Con chi sta scopando Giulio? Cosa? Con chi messaggio? Giulio sta scopando in diretta. Sta scopando in diretta. Però non si vede. Ci sono dei bambini del Pakistan che ci guardano. Radin con Salutiamo il nostro follower turchi. Missione commenti nascosti. Il follower Erdogan. Intanto io ho il badge del fan più attivo. È vero, è lui, è il nostro unico fan più attivo, lui. Intanto. In effetti è strano perché... Che io non ho mai fatto un cazzo. È curioso, io non posso vedere i messaggi. Come fai a vederli tu? Perché io non li sai vedo? Forse perché? Perché ho spammato molti inviti. Vez, ah, ti ho scritto. Posso scriverti le tre righe? Posso scrivere in maniera ironica le righe del mio personaggio? Che ho scritto 7 antibullo, 3 esorcista, 4 barra 2. Sì, antibullo. È tu. Meglio di niente, secondo me. Sai, forse perché sono il fan attivo? Perché ho spammato molti inviti. Va bene. Ho mandato molti inviti. Questo momento climatico. In che senso? Quando te l'abbiamo chiesto. Ma chi è la voce metallica? Fabbro. Sì, Darth Vader. Comunque vi dicevo, Radin compare sulle vostre teste e afferra per la collottola. Sulle vostre teste quali? La sua? Casimir, sì. In quel momento le sparano fiamme dai posteriori dell'incubo e comincia a volare in alto come un razzo. No, sembro io dopo cioè in pratica dal culo dell'incubo escono fiamme. Ma raga, ma che cazzo, è un film Disney. E comincia a volare in verticale verso l'alto. Comunque qualcuno che qualcuno vuole... adesso mi piace. Tu e Atanas certo, avete diritto pin. A un attacco di opportunità. Se vuoi avete un attacco di opportunità. Dai! Sì! Sull'incubo? Su Radin o sull'incubo? Ma cosa è successo alla fine a Kevin? Quando voi non state cavando è comparso Radin, ha sì, preso Kevin. Ah, l'ha preso Basi. Preso e l'incubo è partito. Magari le ali come attacco di opportunità, non posso tipo prendere Kevin, no? No, lo fai sul... O fai un attacco di opportunità su Kevin. Vabbè. Non possiamo lasciare prigionieri alla strada. Sono troppe cose. Sono troppe cose. E se sbilanciassimo Kevin buttandolo Radic, buttandolo giù? Sono abbastanza sicuro che si possa fare solo nel tuo turno sì. Lo sbilanciamento. Va bene, allora facciamo un attacco sull'incubo, dai. Vado su lui. Ok. Giulio, Giulio con i cavalli, aspetta. Oh, vai. Questo è il momento. Non so. Ma tu vieni per Natale a Bologna, Salla? Vado. Allora. Tipo il 18 del Star Wars? Definisci Natale. Natale va dal 15 novembre al 15 gennaio. No, allora no. No, dal 18 dicembre. No, allora in teoria torno al 20, ma non ho capito se i miei vogliono andare a San Benedetto o no. Mi frega dei tuoi, 16. Se i miei vogliono andare a San Benedetto, no, vado 15. Allora. Non è automatico. Vabbè. 15. In teoria sono dovrei essere a Bologna tra il 20 e il 29. Quindi in due giorni di quelli o anche tutti e 9? In teoria uso la mia inspiration. È facile che ci sia solo il 24, 25, 26, 27, 28 e 29. 12. 12. Okay. È facile. 12 pietra. Il primo quanto hai fatto? Allora. Ecco il secondo. Perché se saltano le ali di pale, appunto c'è. A me che andiamo in tre. Cioè, se devi fare una pizza in pale ci sono. E così ho sprecato la mia inspiration. Arci, se devi fare una pizza in pale ci sono però. Sto organizzando la stanza, non vado in bravo. Bravo, Salla, fare. Bravo, cazzo. Ma se la pizza in pale venga. Tiene fuori quasi il 30. No, viene più il 30. Ah, non viene. Perché è venuto questa settimana? Sto cercando. Che cazzo stanno? Le regole per la cavalcatura. Fai male, che cos'è? Deve essere 15. Io mi ho fatto danni al cavallo. Io no. Non lo so se ho detto 15, ma non mi ha detto se l'ho arrivo. Ah, devo cercare una cosa che non mi ricordo come funziona. Io sicuro 12. Ah, dov'è Carcare? Okay, Monte Carcare. Boh, la città di questo Efisio Pinna che ci ha messo mi piace. E quindi? Arrivo vicino in Liguria. Questo incubo. Incubus. Incubo è Nightmare in inglese. Before Christmas. Liguria. Tra l'altro, grande originario di Iglesias. Basta. Potrei mettere il tuo podcast su questo? Visto che adesso non ho più musica perché ho scherzato tutto quanto. Applicazione podcast. potresti. Io ce l'ho in posto. Vado a letto, buonanotte guerrieri o stregoni o quello che preferite. Buonanotte. Vai, lo colpisci. Datanos. Troppa luce. Lo colpisco? Troppa poca. Bello. Beh, ce l'ho così. 5 danni. Povero bucefalo, si prende 5 danni. Li prende tutti. E muore. Tutto è iniziato una notte sui voli vicino a noi. Non mette a fuoco neanche morto. Quattro gitani, un bardi stanco con un ascia, un po' di merda. Bene. Quindi, Radin afferra cazzo di uno Casimir. L'ho preso, ci credo. Ma sei andato a vederlo, che fa? Sì, voglio sapere. Vabbè, comunque non avrei mai ucciso. E 60. Comincia a volare più in alto che può e quando arriva al culmine sentite Casimir urlare "Non mi avrai mai!" ed un'esplosione di ghiaccio parte dalle sue mani infliggendo Casimir, potevi sparare la palla di fuoco sui zombie squadra. Era leggermente impegnato la gente pensa solo a se stessa sì. Un po' mi dispiacerà perché mi servono dei D6. Mi poteva usare Misty Step. Puoi usare Misty Step. Tieni. Cazzo, quanti ne vuoi? Qui 8. Grazie. Vuoi altri? Mi arrangio con questi. No, quanti ne vuoi? Se... Non potete morire. Tra cui questo, il tuo preferito. Quale? Ah, vabbè, si è tirato una decina di D6. Sempre 6. C'è una decina di D6. Che non ho tirato prima? Quanti danni hai fatto? L'hai preso tutta male. Gli hai fatto dei danni? Sì. Guarda come tira bene. 5. Guarda. Tutto è iniziato una notte sulle mura vicino a Barovia. Quattro di stanza. Si chiama dado truccato. No, magari. Ok. Ah, questi sono i tuoi, questi sono i miei. Grazie. Comunque che se faccio la faccia incazzata mi riconosce l'iPhone. No, credo che non ti riconosca se chiudi gli occhi, ma onestamente devi vederlo attraverso un'altra persona perché. Vabbè. Quindi vedete il corpo di Casimir che cade, si schianta sul tetto di una casa lì sotto e Radin e Bucefalo scompaiono di nuovo. Bene, Vardistron. Cioè, in 6 secondi si schianta sul tetto di una casa di sotto. Cioè, tu ti rendi conto sì, che... Vero. Uno. Io potevo usare... Invece va su... Qua, sì, vabbè, non è che va su di 27 piani. Ah, allora non si sarà fatto troppo male. Era da dove siete partiti, è andato su di 90 piedi. Cioè, è l'unica piedi. Occasione che avrei potuto avere di fare Relentless ed era già 20 Avenger piedi e volare di 15 piedi per raggiungere il mio avversario. Esatto, okay. Ha quel piccolo problema. Vai Vardistram, tu sei a 150 piedi, quindi sei solo a 80 piedi dal punto in cui si sono attaccati gli spaventapasseri di legno. Uso due movimenti. Yes. E cambi arma. Quindi Vardistram arrivi a 150 più 60, 210. Race, hai la lancia e sei a 60 piedi da me ne vado. E sei 60 piedi da signora. Valle mura. Arrivederci. Ma pure la passo. Quanto è lontano, scemo? Appunto, se tu vai. Salla è tornato a giocare con noi. Qui scemo era. Con noi. È totalmente inutile in combattimento. Cioè, non è fatto per il combattimento. Cosa? Il ladro? Il mio non è un ladro, è l'Arcane Trickster con tipo carisma alto per imitare le persone. È uno che. Uno che. Se provi a usarlo in combattimento muore la prima sessione. Esatto, cioè io non sono uno scemo. Comunque, scusate ragazzi, è un di 6 danni per ogni 10 piedi. Casimir si è preso 9 di 6 danni. 11. Vabbè, 11. Ma sì, 11 di 6 danni. Che cosa? Va bene. Una caduta. Però fanno gli anni, credo. Sceo a 150 piedi da te. 11 di 6 danni? Non so. Il mio amico più vicino quant'è? Il nemico più vicino. Dimmi se si sblocca, aspetta. I nemici più vicini sono. Sì, che abbiamo perso tutto il party. Sì. Sono tra i 36 e i 41 danni. Sono a 250 piedi da te, dall'altra parte delle mura, perché tu adesso sei sotto. Allora comincio a salire e tiro la lancia per colpire scemo. Apri, apro subito. Va bene, cioè, alla fine noi siamo ancora in piedi, è abbastanza buona salute. In questo momento tira con svantaggio perché non ha subito altri danni. Cioè, ok, almeno che non si sia autofatto dei danni quando un'esplosione di ghiaccio. Quello potrebbe. Sì, capito. Non capisco se è bloccato o se mi sta guardando. Sì, è bloccato. Non lo so. Potrebbe, non è detto, No, è finta. È troppo è bravo. Falso. Non lo so, quel rivolo potrebbe aver affinato la tecnica. Quel rivolo di Baba. Tanto che sta attendendo le mosche dietro lo schermo. Pensa a cosa fare, Pat, cosa fai? E io curo questo qua. Sì, giusto. Quindi tu puoi agire. È bravo, però ti cura. Quando mi ha curato no! Che è crashato mentre lo dicevo. Ci sei? Vai. E poi di terzo? No, vabbè, di secondo. Tienti un evocare. Ah, lui la fa di terzo e te di secondo. No, la faccio di secondo. No, no, la faccio di secondo. Bom! 13. 13 Pietro. Okay. Gli spaventapasseri sono ancora lì attaccati. Ci arrivo con un movimento. Tu sei a 150, loro sono a 230. Quindi sono a 80 piedi da te. Vabbè, faccio un movimento e gli lancio la torcia. Ok. Quindi dovresti chiederlo di invitare Salla. Perché? Andarsene, oh, cioè non è una... Quindi va, arrivi a 100, fai 30 anni avanti e lanci la torcia. No, con vedi che non attacco devo rinvitare, si rinvita da solo. No, mi rinvita da solo. Mi è crashato esattamente mentre dicevo che voglio colpire Scio con la lancia. Puoi toglierlo dalla conversazione un attimo. Dicevo, volevo colpire Scio. L'avrei fatto. Stai laggando, non si capisce, mi spiace. 8 più... Lancia Scio su Scio contro Scio. Pongre con me. Sì, lancia la lancia. La proficiency non la metto, vero? No, non la metto. Cioè, io voglio lanciarla in modo che gli arrivi esattamente 10. In mezzo ai piedi. Sarebbe per colpire? Mancato. Cioè, senza colpirlo, tipo che lui si ritrova la lancia. Vai, tira, tira con svantaggio, ma dimmi i numeri che fai. Ah! Allora, per colpire faccio... Cosa tiro? Destrezza o fo? Destrezza. Come fa a lanciare la scivola, lancia? Di 16. Cioè, i due dadi quanto fanno? Che minuto siamo verso il video? Hai svantaggio. Però dimmi quanto fanno. Non sono in ira in questo turno, quindi non di mezzo nemmeno. A 16-13. Ok, quindi no, la lancia atterra in maniera maldestra a 10 piedi da Shea. Non vuole sapere. Meglio di così? Sì, sapete? No, più o meno che cazzo ha fatto, scusa? Cioè, noi siamo tutti a 150 km da dove dobbiamo andare. Perché lui si può muovere di 60 piedi nel suo turno e usare un'azione. E poi lui è qui. Cioè, lui ha tagliato, praticamente. Perché ero l'unico che avrebbe potuto prendere la lancia in tempi relativamente brevi. E comunque in esattamente. Teamwork. Patka curato. E gli zombie a modo mio aveva bisogno di una cura. Allora, quelli che sono che cercavano di assaltare il punto qui, non avendo possibilità di salire, si vanno verso il punto qua. Era zombie a metà. Ah, the cranberries. No? Sì, sì, non rimetterla, però che già è bastata metterla una volta. No. Sì, solo perché è morta, adesso ce l'hai con lei. Del primo gruppo ne rimangono 7 ancora in salute per essere degli zombie, 1 messo malissimo e 5 messi male. Dai, essere tu fan più attivo. Un'ora e 40 perché ho spammato inviti. Esatto, ha condiviso la pagina. Bene, sulle mura cattura. Salgono. Non è vero. Tu non condividi? No, è vero, non condivide, Giulio. Sulle mura salgono 2 zombie da ogni punto. Sì, così. Il turno prima erano lì che stavano scalando la scala di Spaventopass. Vabbè, raga, è stato bello ritirato. Mettiamoli giù. Ti ho curato, giuro, ora che prima ti lancio dalle mura combattendo, Forse buttarle giù. Shove non è così complesso. È una prova contrapposta. Sembrano forti? No, sono degli zombie. Scusate, come fanno gli zombie a scalare una parete liscia come un muro? No, sono saliti sugli spaventapasseri. Tutta la scena, esatto, degli spaventapasseri. Ah, hanno scalato allora, hanno salito le scale, che sì. Diverso. Gli spaventapasseri sono uniti, tipo Megazord. Uh-huh. E poi gli zombie hanno scalato Megazord. E, ah, i due spaventapasseri che sono lì sotto. Usiamo le pentoloni con l'olio bollente, no? Andiamo. Guardano in maniera molto torva. Garrosh e Atanas. Ma sparaci i lupi sul primo. I lupi non si sparano. Fatemi un tiro salvezza sullo wisdom. A parte che c'è. Sulla wisdom. Che bello. Da sotto. In che senso? Da sotto, sì. Come fanno a guardare da sotto? Cosa abbiamo? Più tre. I loro occhi. Lui ci dà un più tre. Forse non. Lui dà più. Sì. Entro 10 piedi lui. Sì. Quindi sono giù. A Garrosh. Ah. Sei pari a Garrosh. Sì. Cattolo, ma tu come cazzo fai a capire dove siamo messi e come con queste specie di sfizio? Ha messo le distanze dal punto zero, praticamente. Sì, ma non è che siamo tutti quanti in un'unica retta. Sì. Allora, se ho il più 3 è un'unica retta. Se ho il più 3 è 12. Beh, non andiamo in due direzioni diverse. Se tornate indietro, allora diminuisco il numero. Se andate avanti, allora la distanza dal punto zero. Sì, ma si vede qua, comincia a correre il lato. Ma scusa, anche Giulio era andato avanti. Vai i numeri negativi. Però sei non è difficile. 30 piedi da me. Comunque hai fatto 8 11. Ma lasciami lanci giù dalle mura. Hai fatto 8 11. Di schema. Ho il più 3 di Vez. Atanas, tu sei a 30 piedi da Vez. Allora 8. Allora, chi fallisce 12. Il tiro a salvezza? Quanta la c'è? 11. Ah, allora io 12 ce l'ho fatta. Sì. Grazie, Vez. Beh, 11 la può fallire solo una scimmia. Vez è fallita? No, fallita io. Vabbè. Il personaggio è magicamente spaventato fino alla fine del turno successivo del spaventapasseri. Cioè, ti ho curato e tu ti sei spaventato di uno spaventapasseri. Ma che cazzo di voler il bersaglio essere? Spaventato è paralizzato. Lui è quindi è paralizzato dalla paura. Uccidere corvi. Dello spaventapasseri. Ciao, e curami. Bene, e questi erano tutti cattivi. Vai! Cos'è il bastone? Atanas, tocca a te. Garrosh. Ah, ma scusa, spaventato sta fermo? Che è magicamente spaventato e quindi ed scappa è... dallo spaventato. No, è paralizzato. Ti dispello io. Garrosh. Arrivo e posso colpire adesso. Sì. Butta. Arrivi a, sei a 20 piedi dall'inizio del tuo turno. Con la lancia e siccome è carico con la lancia posso con un secondo attacco spingere. Buttalo giù. Sì. Posso attaccarlo e spingerlo no, col mio talento. Giù, buttalo giù un altro. Sì, buttalo giù due. Comunque in ogni caso dovremmo ucciderlo prima o poi, quindi no, tanto vale tanto passivo. Però butti giù che lui cambierà. Allora, il primo attacco, 12. Buttalo giù di morale. Sì, hanno 8. Hanno 8 di zombie. No, è... Sì, sono spaventapasseri. No, sono zombie. No, c'è un zombie sulla, zombie, sulle mura. Ah, sono già su. Ce ne sono due sulle mura. Allora sì, scusami. Non avevo io non so su cosa andare, forse sullo spaventapasseri. Beh, sono idea geniale io. Cioè, idea geniale io. Tu tienimi lontano gli zombie. Qui sulle mura, dico. È che non so se andare sullo spaventapasso. Io volevo andare sullo spaventapasso. Non c'è buttalo giù. Però becco tutti gli attacchi di opportunità degli zombie. Devo passare in mezzo a degli zombie per arrivare allo spaventapasseri. Ah, sì, i due che sono lì. No, butta giù. No, butta giù gli zombie. Li uccidi. Ah, e poi no. Sì, scusami, è che non puoi passare attraverso il loro spazio. Ho capito che faccio. Butta ammazza. Comunque torneranno su. Sì, però intanto lo butti giù. Ma non ha senso, dobbiamo ucciderli. Sì, che ne abbiamo uno solo da affrontare. Ne abbiamo tre il prossimo turno invece di quattro. Almeno. E ne arriva un altro. Ho capito, però così intanto ne butti giù uno, che comunque gli fai danno buttandolo giù. Quindi ottieni due cose, uno che non è lì e due che subisce dei danni. Sì, no, ci può starci, anche però perché io posso fare una cosa sul fondo. Ti spiego il mio talento, se io lo carico come in questo caso, lo colpisco dopo un altro attacco e posso spingerlo con quell'attacco. Va bene. Quindi facevo sì, un attacco e poi lo spingevo. Vabbè, questo ci sta. 13. Oh, Pietro! Sì, cioè, avevo colpito con questo danno. Sì. 13 danni penetranti sono con la lancia. Ok. E col secondo attacco, ti ricordi che potevo scegliere se fare un attacco extra oppure lo spingo di 10 piedi. Esatto. Lo spingo di sotto. Quindi è una prova contrapposta. No, sì, hai scelto tu che era non lo so no. Sì, lo spingere so è lo shove la prova contro posta, sta giù. Non so se tu la intendevi che funzionava. Cioè potevo scegliere se fare un attacco extra. Il background dice che una volta era un nano normale, no, no. Poi era un nano che spingeva, però non scendeva. Quindi fare azione contrapposta in forza. Nel background questo è ben stabilito. Sì, puoi usare l'athletics contro la sua forza. Sì, però 22. Sì. Hai vinto. Vai, giù. Giù. Giù, giù, giù, giù, giù, giù. E giù. Posso fare il mio secondo attacco su quello di fianco? Ce la faccio? Sì. Dici che posso spingere due? Spingilo giù. Non lo so, posso spingerlo di diretta? Sì, posso fare un'altra spinta? Sì, con il mio secondo anche attacco. A quello dopo? Sì. Cioè, fa, giù. Invece che fare il secondo attacco? Sì. Non ne hanno saliti due zombie? Sì. Uno abbiamo detto appena ribaltato giù. Sì. Ma non ne hanno saliti due punti diversi tutti e due allo stesso punto? Sono saliti due zombie in ogni punto. Ah, però noi siamo in un punto adesso. Dove siete là? Giù. Ma siamo qua. Di arrivo e l'attacco extra posso spingerlo direttamente. Sì. Allora di nuovo prova contrapposta. Fai. Giù, giù. Tra l'altro 20! Non hai delle buzz. Non di dato a 20. Sei in ira? No. Sì. Non hai delle buzz a questo. Sì, sì, vantaggi. Sì, vantaggi. Tripli, quadrupli. Vantaggio, vantaggio. Madonna. Non quanto guardare, hai fatto? Non guardare, tira, tira vantaggio. Tu quanto hai fatto? Sì, sarebbe. Hai vantaggio per le prove di forza. Hai vantaggio per le prove di tiro io. Sì. Validissimo. Sì, va bene, lo tiro io. Allora è 27, ho tirato meglio di te. Giù. Giù. Sì! E lì che li ha, tutti e due devi tirare. Devi tirare tutti e due. Devi tirare tutti e due. E doppio, perché è in ira, quindi spinge più forte. Svantaggio la caduta. Fa vedere se cade. Raddoppia. Pensavo solo ai tiri salvezza. Sì. Raddoppia la forza di gravità. Devi tirarlo in su, per farlo giù. Giù, esatto, scio. Tu che fa più danno. Tu mi sei pieno. Hai ragione. Pensavo solo ai tiri salvezza. Tutto. Poi tocca a me, tocca a me. Avevi punto vantaggio di sfortuna. Sulla forza. Pensavo di averlo solo sui tiri salvezza. Il secondo cade rovinosamente a terra e vedete che si prende sottopaneta passa. Prende fuoco, esplode facendo danni. Sì, perché il planeta passa? È uno, fallimento, okay. Fallimento aggressivo. Due, ancora peggio. Vedete che gli si stacca una gamba e la gamba comincia a camminare. E prende così abbiamo creato e prende gli strumenti passeri. Cosa? Sì, ma lo sgambetto è una gamba giù. Sembra la scena della mummia dove c'è il braccio che va a cercare di prendere la spada. No, esattamente così. E non succede niente in particolare. E questo era Garrosh. Sfortuna. Ma se spingi su c'è un io vedo il mago che è caduto dal cielo. È caduto sul tetto di una casa sfondando. Marco, continui ad abbattere gli spaventapasseri che hai colpito prima. Ok, continuano a battere la spaventapasseri. Magari devi decidere tu quello che fa Marco. Fidati. Marco, ribellati a tuo fratello, non è qua, non può picchiarti. Cioè, è qua, non è là. È sì, qua. È qui, non è qua. È qui o è qua? Dove? No, è qua sei. Ma il 20 dicembre devi tornare a casa, quindi. Ah, adesso non è qua. No, qui, qui, scusa, qui. Adesso è qua. Perché è qua. Per colpire? Sì, col 24 faccio 11 di danno. Colpisce anche con l'8 se... ah no, era uno spaventapasseri, con l'8 non colpisce. Ma è fallimento critico 8, quindi sì. Allora posso. Vuole. Tocca a me. Ok. Pat. Non ti danni fatto. Pat. Quanti? Barde strano. A me? 11 adesso. Possono primo. Prendere lo spaventapasseri 18. Principe. Principe. Quello davanti, sì. Perché siamo liberi. Solo che ci sono gli altri zombie più avanti. Vabbè, ma quelli sono più avanti. Vabbè, se la fai danni tu, cioè il. Vado sullo spaventapasseri. Dico invece col che mio Wine Anger. Quanti danni fai? Vendicatezza del no, bimbo. Dipende da quanti danni fa. No, sì, quanti danni fa quell'altro? Di 8 in più. 2 di 8. Ah, di 8 in più, beh. Vado, provo. Cacca, queste scale qua di spaventapasseri. Ce ne sono 12. Che è anche 12. Fermo, con svantaggio, con vantaggio. 12, uno spaventapasseri. Colpito. Amore mio, da dove vengo io? Un bacio ad ogni... Uno, posso ritirare? Contro 15. Danni? Sì. Muore. Con anche il dado in più del... Muore. Prendo. prende tutti. No, non muore. Cos'era meglio se spingere? Adesso puoi provare, dai. Però che cazzo. È ancora io. Non andiamo tempo, ma. 21. In realtà se riusciamo a farne fuori uno non possono più aggrapparsi. 2, Dio! 14. È ancora vivo. Beh, vabbè, smetti di salvare tutti questi zombie. Sono spaventapasseri. Ma quanto cazzo sono grossi i spaventapasseri? Decine di migliaia. Sta, è messo un po' male. Tocca a me. Sì. Io faccio questo nome. A toccare io. Beh, però un Eldritch Blast lo sega. Aspetta, è sal. Race? Si è sconnesso, perfetto. Tocca a me. Vabbè. Allora. Arriva da qualcuno, no? Diciamo che computer Microsoft e software Microsoft non sono. Comprati un MacBook Pro. E ce l'ho, ma è nella. È in valigia. Nella borsa. Nella borsa non ce l'ho, ma è nel bidone. È nel bidone dell'umido. Tu adesso stai correndo sulle mura. Sì. È ritornato sulle mura, ok. Allora. No, ho sbagliato. La prima pietra? No, sì, perché non devo tirare 2 di 8, Giulio! È un 10 più un di 8. Cambia un cazzo, adesso ci fatto di meno, te lo dico io. Fammi tirare. C'è la possibilità che tu farai di meno. Sì, anzi, è sicuro. Guarda. Questo turno non riesce ad arrivare a nulla. No, devo ritirare. Tienti 29, tanto non puoi fare più danni. La storia della mia vita. Vabbè, fatti i calcoli. 2. Questi sono già. Sono 14, 18. Più 4, 18 con un attacco. Bam! 12 più 4, 16. 16 allora, per 4. Invece di 29. 32, sono arrivato vicinissimo. 32. Bravo. 16 più 18, 34. Sono quasi arrivato. 34 al posto di 24. Tiravo un pochino 29. Meglio. Tiravo un pochino meglio. Devi farne 38. Tiriamo un pochino meglio. Allora, io evoco una sfera infuocata, di quella che poi posso muovere come gli geni muovono. Che non richiede giorni, concentrazione. Che richiede concentrazione, quindi i lupi esplodono facendo danno ad aria. Vabbè. Non posso di fuoco. Esatto. È vero, posso... no, perché Cattedra mi si guarda a caso dopo di me. E... Nulla ti vieta di preparare l'azione. Dopo i lupi? Sì. Subito. Vabbè, scusa, puoi sparare il boltino e far attaccare i lupi. Scusa, non ho capito perché. Perché vuole fare la sfera. Invocare la sfera infuocata, che la posso muovere durante i round. E brucio un po' gli zombie e gli spavento passo di legno. Fai il boltino sul primo e fa attaccare i lupi. E poi dopo spara il prossimo turno sull'altro. Sì. No. Boltino se sassi via lo spaventapasseri avanti. Più i lupi attaccano sotto, li buttano giù. La sfera, al secondo. La sfera devo farla, ragazzi, non è che sfera le faccio. Il prossimo turno fai la sfera e la fai sull'altro lupo. Quanto di tasso spaventa passeri? Come è ridotto molto male. Cioè, sono due ridotti male. Allora focuso questo spaventa passeri. È l'ultimo della scala, sì, no? Sì. Quindi dopo la scala cade. No. Non lo però so. Diciamo gli manca l'ultimo pezzo. Gli manca un quindi piolo. Non posso salire sulle mura. Allora sì, va bene. Colpito. A meno che 2 di 8. 13 danni. A meno che non ci si metta uno zombie. Sono suscettibili di fuoco, no? Certo, fuochissimo. E poi prende fuoco quello sotto. E quello sotto ancora. Non lo so se sono di fuoco, cazzo. Non so come sia. Vabbè, il tuo incantesimo. Si chiama fuoco bomba. Fire bomb. Fuoco bomba si chiama. Viene incenerito. Turbo fuoco. Lancia fiamme. Il canter, giusto? Bracciere. Firebolt. Firebolt. Più fire. Quindi di acqua. Poi i miei lupi, lupi attaccano un D10 attaccano lo spaventapasseri base di quella scala lì. Peccato che intorno ci siano i zombie. 20 zombie. Non ho chiesto cosa c'è intorno. Tutto non sul lato. Allora sono attaccano gli zombie mura, che stavano attaccando prima. Ce ne sono ancora di quelli mezzi sbruciacchiati. No, comunque è di 10. Primo lupo. È vero, non hanno neanche attaccato i tuoi lupi. Va bene. È di 10 il Firebolt. Come di 10? No, è del trucchetto, io dico. Ma l'ha ucciso, no? Come di 10? Sì. Per forza. Firebolt. Non è mai stato di 10. Di 10 veramente? Fai un attacco a distanza, no? Sì. Sì, un di 10. Il druido? Sicuro? Mi è stato un di 8. Boh, vabbè. No, forse non è Firebolt, ma è un altro. Flame che era un di 8. Non lo so. Vabbè. No, perché, vabbè, Forse non è Firebolt, non so come si chiama in caso del tuo incantesimo. È un trucchetto, Giulio. Guarda il trucchetto, sì, dello zero, si chiama qualcosa. Firebolt. Tira i danni dei dico. Ti ho detto, questo qua era americano. No, ma non è Firebolt, è tipo produci fiamme, una roba del genere. Ah, produce flame. Aspetta. Sì. 7 danni. Un dio. Se lo mangio. 2, secondo danno, prende 3, 5 danni. Cioè, ma perché non fa Firebolt? Terzo lupo. Perché è un cantrip dello stregone. 7 danni. Ah, ok. Magna. Quarto lupo. Adesso sarà spazio. Danni. Ci sarà spazio adesso. 9 danni. Ci sarà adesso spazio sul coso. Sono finiti quelli? Quelli sono, questi erano quelli sbrucciacchiati, sì. Sono finiti. Allora, il serpente, sono già finiti. Ci sarà spazio sullo spaventapasso. Ce ne rimane uno bruciacchiato. Serpente, allora. Il lupo sbilanciava, cazzo. 8 per classe armatura. Forse colpisce. Quanto ha il serpente a colpire, Giulio? Non so, c'è una cosa. È giù il giocatore. Cosa vuoi sapere? Constrictor Snake. Constrictor Snake al colpire. Una classe di prestigio. Più 4. Ah, 4 più 4, 8. Ecco, quanto pare, basta. Più 4, sì. 8 danni. 6 più 2, 8. Questo era massimizzato. Ho seccato questi 10 zombie. Sei contento? Però potevi sbilanciare con un lupo. No, perché a quanto pare ci sono l'esercito dei orchi lì intorno. Mi ce ne adesso sono però altri. Questi qui. La prima male del giocatore. Ma cioè, saranno poi così tanti, perché se tu metà sono sopra. Non ce n'è nessuno sopra. Bella, il giocatore va fuori. Questo si scherza in una lingua. Sembra che loro non riescano a trovare l'incantesimo trucchetto del druido senza. Adesso lo trovo. No, l'ha detto produce flame, un dio. Non è quella. Questa era pazza. Sì, è produce flame. Ah, un diotto allora. Te l'avevo detto. Era quella, bello. Ecco, lo sapevo. Allora. Druid spell, produce flame. Ho visto, se tu non sai i tuoi incantesimi. L'ho detto io. Forse voglio usare il poison. No, tu hai detto qualcosa a fuoco. Che è bello che voi avete in casa. Però sono suscettibile al fuoco. Produce flame. Cazzo, è così buggato. Se il druido è. Allora. Mette potenza. I cattivi, vediamo un po' che cosa fanno. Cosa facciamo, raga? Nel punto più lontano i due zombie vengono verso di voi. No, e ne salgono altre 4. Quindi sono 6. No, 2. Uno manca un pezzo. Quello è il punto più lontano, dove non siete voi. Ne salgeranno 2, 2 volte, no? Perché quelli due erano i primi della fine. Crescono quadraticamente. No, non quadraticamente, però. Però esponenzialmente. 2, 4. Adesso hanno più tempo per salire, dato che la scala è già. Ma sono sempre 6 secondi. Secondo me il prossimo turno. Hai presente pezzo le scale di Crash Bandicoot? Secondo me il prossimo turno ne saliranno 8. Lo scoprirete sopra. Sì, probabilmente tra 3 turni siamo. Scoprirete sopravvivendo. E poi 8, 16, 32. Presto. Poi sono finiti, però non ce ne sono 64. Sì, ma devi considerare che siamo tutti in fila indiana. Quindi. Poi. Beh, nessuno può fare il coso. Come rega il cannone di Tenzing lì. Flash, no. Cannone spirituale. O se no c'era anche quello di Junior. Però. Amore mio, da dove vengo io? I zombie sotto cominciano ad assaltare i lupetti e il serpente. Vedete che ogni zombie si lancia su ogni animale si lancia uno zombie e lo attacca due volte con i suoi artigli e una volta col suo morso. Classe armatura dei lupi. 12. 11 lupi hanno. 11. Vabbè, più o meno. No. Ok. Chi offre di più? Vabbè, più o meno. Fanno di morso. 5 danni. No, non beccano. E di 11 ho detto di CA. Sì. Quindi 5 danni non beccano. Claw, questa. Vai, Mongrel. Fanno. I Mongrel stanno per arrivare. Sono dietro, tanto tanto. Sono dietro di voi, sì. Sì, i nostri alleati ovviamente che giocano a briscola. Ti seguono me, Mongrel. Ah, sì? Sì. Poi. Altri 11 danni col secondo attacco. Che muore a differenza dei suoi compagni, Mongrel lo segue. E la sua nuova compagnia. Io trovo sempre la lancia babbuino. Sì, l'ho anche usata. Trovo sempre nuove compagnie. Cioè, comincia. No, sì, non se la smancia ce n'è anche perché quando muoiono scompaiono. Grazie. Quando lo puoi. Ancora qui se. La vai a riprendere. Qualcuno me... anzi no, qualcuno oh, me il belupo costa una natura 11 che ha tirato 3 dadi e ha fatto 3 11. Giustamente. Bra, bra, bra. Dai, si becca solo 9 danni. Ancora vivo mi sa. Sì. Devi darlo 11. Da 12 tipo. Controllo. Siamo a 40 forse. No. Riguardi il lupo. Guardi il lupo. Guarda il grande lupo infernale. Credo che abbia 800 punti ferita. Avrà 12. Il terzo lupo. Sì, secondo me è 12. Io dico 13. Lo manca con tutte. Il numero vincitore è Wolf. Il quarto lupo. Giant Wolf. Sì, quello. No. Mega Wolf. Con il BGS 14, ragazzi. Wolf. E il vincitore è... L'altro 5 danni, ma non li stai neanche tenendo. Quindi 13 la questa cosa. Hit points 11. A 13 di CA? A 13 di CA? Sì, 13 di CA. Okay. A 13 di CA! Ho capito. E quindi tu hai fatto 11? No, ho fatto 11 di grado. Vabbè, avranno un più. Un più? Che è 3. Cazzo. Quanti lupi sono? Ci sono qui. Ma smetti di uscire da punti. Ce ne sono devi ancora uscire. 3. Ok. Le 1, le 2, le 3. Il serpente si becca solo un Skype che decide una artigliata da 4 danni. Il serpente 4 danni. Che lupi ha preso cosa? 1-11? Sì. E gli altri? 1-5? Uno niente. Ok. Cosa? E bene. Poi. Perché? Pezzo la tecnologia. Possiamo cercare la tecnologia, cioè Skype. No, smetti di toccare la faccia di Marco, che è schifo. Dai, possiamo cercare un nuovo programma a fare le chiamate. Di accarezzare Marco, pedofilo. Due spaventapasseri da sotto vi guardano in cagnesco. E guardano. Povero Marco, è spaventato. Sono oscurati, guarda. Anche voi siete oscurati. Dove sono oscurati? No, non più. Ma smetti di toccare Marco, Vez. Smetti di accarezzare le labbra di Sal, che schifo. Ora definitivamente. Vez, così eccitato non lo vedevo al sushi. Tipo solo al sushi. Sfortuna e Vardistran, fatemi un tiro salvezza sul Wisdom. Su cosa? Saggezza. Su Wisdom. Do più 3 anche a me. Dai più 3 anche a te. Oh, attenzione Vez. I miei 10 piedi. Attenzione Vez, che baffa gli alli. 18. Superato. Non lo so. Sala, tira fuori il telefono delle mutande. 4, guarda che Marco. È tornato da qui, va perfetto. Marco, tira fuori il telefono delle mutande, no, di Sala. Marco che mi sta massacrando. Marco, senti, tu di cosa fai senza farcelo vedere? 4. Sei paralizzato fino al prossimo turno. Oh. Guarda, la domanda è perché voi siete negri? Sì, è vero, perché siamo neri, Vez? Boh. Cosa hai fatto, Vez? Qualcuno ha parlato di negro. Cosa hai combinato, Vez? Negro del Kenya. E niente, Atanas. Non lo so, raga, non lo so, ok? Ma le giunte curate tre round non fai un round, un round. Come Atanas? Io ho saltato il round, Vez. Sì. Tu hai corso. Ma smetti di accarezzare, Katta. Come ho corso? Non lo so, perché... Guarda come accarezza Katta con fare. Volevi stare fermo? Guarda come gli accarezza faccina. Ora, vabbè, anche così. Non puoi riflettere sulla cosa. Ok. Che fanno? Mi dillo. Aspetta. Mi fanno. Cosa sta succedendo? Faccio fatica a fare i movimenti. Atanas. Quindi ci sono più avanti 4 zombie. Madonna, che caso. Sì. Però sono che più avanti. Stanno a Si accende. Esattamente. Si sventola con un Mac per far vedere che lui Mac non sa come cazzo di fare. Per c'è un video che si vede però. A 180. Quindi sono a 110 piedi da te. Perché ora un avanzo di 30 e sparo. Più piccolo di Giulio, sei pensato così, dai. Sparo un dardo. Yes. Ma non puoi rimetterci 17, 24. Ti trecini nell'angolo. Ma ti come via. Carezza, come carezza. Non era difficile, mezzo. Adesso vedi meglio Marco, no. 9 danni. Ok. Sì. Come non mi vedi? sei bloccato, sei felice? No, sei sbloccato adesso. Garrosh, cosa fai? Più che altro stai in una posizione in cui quindi ti sei inquadrato solo a metà faccia. No, non ti va bene quando attacca i goblin, non ti va bene come si mette nella telecamera. Marco ribelli. Io posso salire in questo momento. In questo momento non posso salire. No, io non. Che stai in Germania. No, quelli ma quelli sotto, avanti, no, quelli avanti, vai lì, giù, continua ad andare avanti e spingerli giù. Vai avanti e buttiamo giù, giù, giù, giù, poi tutti i mogler anche giù. Se sono distanti, esattamente, 60 piedi da te. No, 60 no. E quindi io che faccio 35 e succo. Bravo. Allora, riguardare l'azione. Posso, esatto. No, perché loro stanno prima di noi in realtà. Sono prima di lui, però di me no, io metto qua adesso. Io mi sono mosso, io sparo. Tanto agite tutti insieme poi. Posso ritardare se loro si avvicinano, lo carico e spingo giù. Perfetto, ci hai ritardato. Non si muoveranno mai così tanto. Un'azione che solo può essere un attacco, quindi ti muovi. No, muovo di 20. Muovo di 20. Tutto molto bello. C'è un sasso. Sì, c'è un sasso. Dai, la lancia. Lancia la lancia. No, e continuo a colpire sì, perché sennò ogni volta devo vuoi ritornare in ira e mi sta sulle palle. Anche perché ormai le dovrebbe scusa, arriva, non arriva lo spaventa. Perché i turni più lunghi sono quelli del guerriero e del barbaro? Lo spaventa passare sotto, ci arriva o no? Cosa? No, sceo. Ah, cosa hai detto, Arci? Tira, diventi, uccidi e no, tiro un cosa hai detto, Arci? Dico, i turni più lunghi sono quelli del guerriero e del barbaro. Ma se io ci metto 3 secondi? No, è 3 ore che devi attaccare, Marco ha i capelli lunghi. Ma non era più il mio turno, da un pezzo. Vabbè, però la tua voce continuava a esserci. Vabbè, ma non è il mio turno. 2. Beh, direi che faccio 6, quindi non colpisco. Mancato, sfortuna. Quindi finisce paralizzato. Paralizzato. È completamente paralizzato o paralizzato? Paralizzato. Paralizzato. C'è scritto sei magicamente spaventato e chi è spaventato è paralizzato. Sei grapplato, totalmente paralizzato. Sei grapplato. Quindi non capisco perché non ha scritto direttamente paralizzato. Perché sei così spaventato ad essere paralizzato. Grazie per la spiegazione. Ti hanno firato, Marco. Ti hanno firato. Esatto. Vardistra. Ma scusa, non posso lanciare qualcosa che non sia. Non puoi lanciare un grido. Non puoi parlare, non puoi muoverti. La mia domanda è questa: il paladino non dà immunità alla paura? È sempre il paladino che dà immunità alla paura, se lui per primo ha paura. In teoria il paladino di solito ha aura di coraggio in un mondo. Infatti è grazie a quella che si è salvato Sheo prima. Io ho Aura of Protection. Da più 3 di salvezza. Non è che posso fare i miracoli. Ah, perché sei di livello troppo basso. Anche tu. Vardistran, cosa fai? Sono a 60 piedi, no? Tu sei al 210, sì, sono a 60 piedi da te. No, scusa, di più. 290. No, a 80. Sono dove rascio io. Sì, infatti ho sbagliato. Sono 80 piedi. Questo schema di merda è fallato, cioè non lo sai no, che cazzo stai andando. Funzionava bene, solo che. Funzionava bene, solo che. Qua pare che sia al sicuro la situazione, no? Funzionava bene. Per adesso non ci arrivano. Ci sono altri spaventa passi. Sì. Amore mio, dove vengo io? Sono ancora vivi quelli del primo bastione, esatto, no? Va bene, faccio 30 piedi e sparo un. A sorpresa, un giavellotto. E se tu stai qui? Fare un giavellotto su quelli incoronati. Tanto perché dal primo bastione adesso ne arrivano altri 2 di spaventapasseri, quindi riformeranno la colonna. E tu intanto dove stanno arrivando gli spaventapasseri? Allora, sono 3 i bastioni attaccati. Il primo non hanno fatto la colonna perché 3 sono stati seccati, ma ce ne 2. Quindi questi 2 si sposteranno al secondo bastione per completare questa scala. Sta succedendo questo? Sì. E dov'è la palla infuocata che aveva promesso Arci? La guerra di fuoco che doveva farla io. Ma tu hai detto, perché non accarezzi i lupi e ti fai e ti ciucci il dito meglio? Noi due ci conviene stare di ma noi siamo ormai siamo all'avanguardia. Loro si devono occupare di questi. Però loro chi? Loro. Fai quello gli che altri, vuoi. Gli altri però secondo dietro. Me A noi due ci conviene. Non posso fare nulla contro gli spaventapasseri. Giulia FK da 3 round. No, sono avanzato, ho sparato agli zombie. FK. Ma adesso loro due sono. Sto avanzando, che cazzo posso fare? Il tiraggio le scale. No, non ci sono scale. Capito, ci devo arrivare, ci sto arrivando. Sembra 18.000 piedi dove devi essere. Se no ci arriva troppi. Devo curarlo e dalla parte opposta. Io posso andare, sto andando. 30 piedi li faccio, capito? Cioè, noi comunque dobbiamo avanzare, arrivare lì e provare a spingere. E comunque ci sono 4 zombie davanti. Sei avanzato, poi tira a chi? Devo prima seccare i zombie. Un giavellotto. A sorpresa! Prima lancio il giocatore. Ma tanto secondo me ci conviene i danni farli gli spaventapasseri, mentre i zombie solo buttarli giù. Allora, prima di partire lancio un giavellotto a sorpresa. Potrei lanciare un arco, che fa danni a lei. Vabbè, intanto si prepara. Race. Poi in realtà potrei forse, però. Vabbè, aspetta, non mi rompere. Devi dirmi tu dove arrivo. Lancio un giavellotto a coso. Lo spaventapasseri. Della colonna rotta. Lo manco così. E poi vado avanti. Ok. Di 30 piedi. Allora tu sei al. Ma probabilmente beccherò sotto uno zombie. Se manco lo spaventapasseri. Sì, lo so. C'è la gamba di quello di prima. Che ironia. Sono comunque danni. Allora, Race sei al 180° piedi. Oh, ora sono più leggero. Quindi puoi arrivare. Tu sei al 180° piede, quindi puoi arrivare al. Ma ci sono le pietre The Human Centipede, ecco. Quindi con un movimento e un'azione bonus puoi arrivare all'avamposto in mezzo dove stanno cercando di assaltare. In quel posto hanno appena segato la testa di ponte. E quindi adesso loro stanno cercando faticosamente di risalire. Una mano? Qualcuno vuole una mano? Sì, grazie. Ho capito, una mano? Qualcuno vuole una anch'io mano? Anch'io all'inizio, capito. Mirto capo o Montenegro? Si può vedere. Mirto. Dai, Mirto. Scegli il master. Allora, io voglio Montenegro. Merda, quindi tu puoi arrivare in quel punto lì e lanciare qualcosa a distanza. Oppure continuare a tirare dritto. Tiro dritto. Ok. Quindi fai 90 piedi dritti che fa 270. Ma quanto sono lontano da loro? Vabbè, non c'è più un mirto. Vedi il Montenegro. Ah, sei a 20 piedi da quelli che sono saliti sulle mura. Hai superato anche i tuoi compagni. Allora no, aspetta. Allora mi muovo solo di 60 e tengo l'opzione bonus. Va bene. Ma è ancora invisibile? In teoria no, hai attaccato con la lancia. Ho tirato la lancia per attaccare. Beh, sì. Cioè, ma avevi l'intenzione di attaccare me sul serio? Puoi arrivare alle spalle di Garrosh se ti beccava. Ma non ti ha beccato. Chi salva? Perché ha un'azione in più. Ha fatto 3 turni da una bella dalla parte opposta. Perché ogni 2 turni è come se facesse un turno in sì. 2 movimenti in più. Ha messo un turno in più ogni volta. Tra l'altro, pezzo, non vedi così, ovviamente non ho ancora fatto un cazzo. Puoi arrivare. Sa solo correre veloce. Esatto. Puoi arrivare alle spalle di Garrosh e avere. E fargli cucco. Ancora un'azione. E rubargli la lancia. No, allora arrivo solo alle spalle di Garrosh e gli faccio così da una parte. Cosa mi fai? Sì, ok. Che però dall'altra. Sì. Okay. Questa? Sì. No, nel senso, con l'altra mano c'è nessun'altra. No, aspetta. Cioè, così. Sì. Allora, esatto. Su grande richiesta di Vez, io sto FK. Ok. No. Evoco la palla, la sfera di fuoco sui spaventapasseri. Okay. Che magicamente, aspetta, seguendo una legge dei tank forti di gravità, comincerà a cascare verso il basso. Aspetta, hai ancora i lupi? I lupi magicamente esplodono. Fai prima attaccare i lupi. No, non posso perché il cattone si dopo. Ma sì, ritardi dopo i lupi. Sì, ritardi dopo i lupi. Basta che prepari l'azione, dici quando i lupi finiscono di attaccare. Quando i lupi finiscono di attaccare, li faccio esplodere. Adesso arrivano lo spaventapasseri. Quanti lupi sono? 3. Primo lupo, becca. Secondo lupo. Stai sbilanciando lo spaventapasseri di base. Lupo. Ci sono i zombie intorno, becca. Non ci arriva. Ancora, no! Ne hanno uccisi 40, no! Ne hanno uccisi 5, ce ne sono altri 20. Ma no, dall'altra sì. parte. Scusa, erano 50, no? Buona vezza, io nel tuo turno faccio tutto sto bordello. Continua a carezzare le facce dei tuoi ma amici. Ma abbiamo uccisi, scusa. Ah, era 50. 7 danni il primo lupo. Era 50. Ne avete uccisi 10. Giulio, poi, Giulio, ok, saranno 40. 20 da una parte. Così no, 20 dall'altra. Comunque non è che era. Ma il boss ce ne sono di più in quel punto. Hai finito di rompere i coglioni? Ah, no, ma lo sa anche lui che è vero. Bottiglia in mano e urla, sembra un ubriaco. Vado, allora, 5, 7 danni al secondo lupo, 7 più 7, più altri 7, 7 per 3, 21 danni a uno zombie. 21 danni a uno zombie. Poi il serpente invece fa un D8 più 2, 7 danni, 7 più 4, 28. Ok? 28. Zombie morto? Sempre sullo stesso, sì. Che perfezione. Se era full, sì. Messo male, ma ancora vivo. Vabbè. Sono tutti danni penetranti. Poi esplodono gli animali davanti allo zombie. Animali e tu lanci. E lancio sfera infuocata. E esplodendo fanno dei danni. Però non credo. No, che bicchierino. Male del giocatore Vezza. Male del giocatore? Aspetta, catta che prendiamo. Ah, si sono. Guarda che merda che a me non me lo offre. Stronza tua. Magari uguale con la tisana. Fagli un bicchiere così, così spacca di mirto dalla mattina alla sera. Non me lo offri. Gli puoi fare un bicchiere così. Vuoi un mirto? No, grazie. Allora... Non vuoi la Coca Zero? Salute. Perfetto. Scusa, perché non fai servire la Coca Zero? Non c'è la Coca Zero. No, cioè, ci sarebbe stata, però non te la do adesso. Non la finiresti. Che non sei stato buono. Dai, t'ha anche curato, cazzo. Troppo tardi arriva. No, l'ho curato. Dopo mi lascia. Come si dice sfera infuocata in inglese? Di Coca Zero che non si beve la volta dopo. Tu non la bevi? Coca Zero, che schifo. Sicuro? Tu bevi di secondo, di Coca Sole. Flaming Sphere. E cioè hai calato parecchio. Flaming Sphere! Un 5 piedi diametro sfera di fuoco appare in un occupato spazio della tua scelta, con un raggio che dura per la durata. Una creatura che ha qualcosa... Due danni, 2 di 6, Vez. 2 di 6. 2 di 6 danni da fuoco, però deve fare un tiro salvezza sui riflessi. No, 2 di 6 no. CD. 13 di Pietro. Altrimenti? Cioè, cosa succede? Perché sono 13? Beh, se la lanci no, sarà 14. Probabilmente sono fermo. CD 14. Però sono di fuoco, quindi se, sì. se il legno raddoppiasse... Sì, cosa sono vulnerabile. Cioè, è Pokémon. Cioè, il doppio di 2 di 6. È così, Salla. Sono degli arbusti. Catta. CD salvezza 14. È ottimo perché dopo un turno. Oh, si spaventa passeri riescono a. Dopo tre turni sono segati. Hanno svantaggio. Hanno rotto il cazzo. Ah, però è vero. Le 2 di 6. Sono sensibili al fuoco. Sì. Catta ha detto che sono sensibili al fuoco. Quindi sono sensibili al fuoco. Sì. Fai il tirato. Sì. Arci. CD 14. I di 6 su una destrezza. Catta, credo. Sì. Super. Superano. Di tutti. Mezzo. Ne colpisce 2, non è che. Immagino quelli alla base. Sì. Oh, posso tirare 2? No. Cioè 8 danni? 8 danni. Quindi 4. Quindi 4, no, ma quindi siccome 8, sono 8. Quindi 8, giusto. Quindi 8. E quelli alla base dove sono? Come, come azione bonus. Però uno non era stato già danneggiato da Marco parecchio. No, quello fermo. Alla base. Quindi gli altri che arrivano se li prendono nel culo se vogliono passare. Se non sposto la sfida. Esatto. Come bonus azione posso spostare la sfera di 30 piedi all'inizio del loro turno. La lascia nel cielo. Posso spostarla a 30 piedi e andare dall'altra inizio dell'altra scala? Puoi piazzarla in cielo e far credere alla gente che sia il sole. Qui non l'hanno mai. Ci sono 100 piedi tra le due scale. Improvvisamente questi piedi sono sempre stati. Sono stati 100. Ammazziamo zombie su zombie, i piedi rimangono sempre gli stessi. Beh, non è che distruggiamo i piedi agli zombie, uccidiamo solo lo zombie. Ma tu puoi lanciare anche gli lupi, no? No, questa è la concentrazione. Non è questa, no? No, no, promuovo la sfera. Cos'altro puoi fare? I cantri. Muove la sfera. Hai detto 8 danni, no? Sta. Quindi dei dardi. Perché? Così. Sì, perché. Sì, ma... forse sono anche. La sfera fa danni solo alla fine del turno. Sì. Non sono un'azione tua. Che vabbè, adesso tocca a loro, quindi. Anche tirare che comunque come azione bonus posso muovere la sfera, quindi non potrei fare i danni. No, però dopo sparo. No, nel senso che non può muovere la sfera. Ah, sì, è vero. Hai ragione. Se danneggi questi, la sfera la lasci qua. Perché i danni li prendono all'inizio del loro turno. Ed è lì che deve stare la sfera. Beh, questo sì, turno è qua. Non l'ho mossa. Sì, infatti. Ed è lì che sta. E no, quando il suo turno può muovere. Oh, incredibile, milioni di zombie. Però loro possono passare. Noi no, ma loro sì, possono passare tranquillamente, disturbati al triplo della velocità. se prendono i danni. Già ubriaco. No, era così anche prima. Cioè un'uvola di zombie. E però adesso mi smetto, basta rivedere che tranquillamente. È dal super scontro con i 60 mongrel che è così. Beh, comunque, se non andiamo alle ali, facciamo collegato sushi. La sessione. Se andiamo alle ali, facciamo un sushi. Se non andiamo alle ali, facciamo un sushi. Sì, vabbè. Cosa succede se escono? Se finiscono il loro turno, quindi vuol dire che devono stare lì. Se andiamo alle aglie la sera facciamo sushi. Sì. La baratura. Per sgrassare, quindi ci Tiger LOL. Okay. Tiger LOL. LOL. Tiger LOL. LOL. Tiger TFT. No, Vez. No, Vez. Vez. Guarda quella. Guarda non riempire questo e poi andare lì a fare lo stesso numero per farlo cadere. Ma vuoi buttare il mirto sul Mac per comprare uno nuovo? Sembri spugna. Spugna. Scusate, dov'è il mio manuale? Sta cercando questo? È sicuro. Davvero solo per questo. Rega, ma che cavolo è il vostro problema? Senti questo odore qua? Non ti preoccupare, Vez. Allora. Sembra proprio il cielo. Intanto preoccupatevi di farmi. No, figurati. No. È sulla condensa. No. Grazie. Preoccupatevi di farmi un tiro sulla saggezza. Si sta asciugando la mano tra sì. Chi? Tutti. Olè, peccato che il saggezza abbia 16 di dado più. Ci puoi dire chi ha il più 3? Ciao, più 3, quelli che sono a 10 da Vardis. 22. Che sono Race e Garrosh. E io quanto sono da Vardis? Tu sei Athanos a Paralyzed. 30 piedi da darti. Tiri sulla wisdom. 4. Che cos'è? 13, sì. Grande, paralizzati in 2. 8. La CD era 11. Tu hai fatto 8? Sì. Fai cagare. Ha fatto 2. Mi dispiace. La maggior parte dei figli sono sotto il 3. Ho anche dei più figli. Quindi siamo tutti paralizzati. Tu sì, hai più 3 dato da Vardistr. Ah, roba da 25 io di tiro salvezza. Tu no. Si è bloccato di. Beh, però nel momento. Foto. Guarda, pare che non abbia passato il tiro salvezza. Oh. Vabbè, ci sono abbastanza gente che sta facendo la foto. Novità fotocamera, chi se ne frega? Io ho 2. Finalmente! È dall'altra parte però, Marco. Hai visto male. No, è dall'altra parte. No, questo è mai scomparso. No, puoi rivedere. Aggiungi la lezione di Tycoons. Come si fa a... Ma lo puoi Sala, come si fa lo screenshot dello schermo? Sì. Volume su, blocco schermo, credo sia, contemporaneamente. Quindi volume su. Vabbè, non è così difficile. Cioè, non è che lo dici tu. Codici nucleari. Quindi chi è paralizzato? Tutti. Io. No, io ho fatto 22. Grande. Non si dice. Non l'avremmo detto dall'espressione. Io ho fatto 13. Grande sfortuna, quindi... Sono paralizzati Garrosh, Athanos, 16 di dado più 6, 22 più 3 di meno. Ok. Quindi i due in collegamento e Arci non sono paralizzati. Mm. E la scala si smonta, quella in mezzo, per allontanarsi dalla sfera infuocata. E quindi si muovono dei loro... di Lego. Sì. Fatta sì, i vari blocchi sono in spaventa pasta, sì, esatto. Presente Lego Movie che si mettono uno sopra l'altro. È Megazord. Megazord scala. Certo. È un essere vivente. E si muovono di 30 piedi verso sud per ricongiungersi con gli altri due che erano sopravvissuti all'attacco di Casimir. Quindi vanno a 200. Di uno zombie, giusto? E dall'altro avamposto ne salgono altri 4. Quindi sono 10 adesso su. Quindi su adesso sono 10. Sì. Regà, la città è persa. No, 10 zombie. No. Io ne riesco a buttare giù. Bazzeccole. I primi due, che erano a 2,90, no, non si arriva addosso. Non vi arrivano addosso, però sì. In realtà noi va bene aspettare un turno in cui loro si muovono e no, per poi poterli caricare. Avrei voluto farlo già 40, quindi però non ci fanno male. Cioè, in realtà a me arrivano addosso perché io perdo il più. Loro fanno tipo 10 o 20 piedi. Quindi loro vanno adesso. 42,50. Quindi si fermano a. Sono prima di loro? Si fermano a 5 piedi da voi. Da lui, 5 da lui. 5 da Garrosh e da Race che è dietro Garrosh e 10 da te. La mia ira finisce in tutto questo. Tu sei paralizzato, dipende se nel frattempo qualcuno ti fa dei danni per farlo andare avanti. Sarà un piacere di essere Race. Hai vantaggio, fai tipo critico automatico. Race è invisibile in realtà. No, ha lanciato la lancia, è tornato visibile in quel momento. Raga, qualcuno mi faccia un danno. Sì, lo faccio io. Ho due io. Da dietro. Però a questo punto sai che non lo uso. Vabbè, puoi darsi che tu lo vuoi scuotere dal suo torpore. Ragazzi, dobbiamo salutare Checco tutti quanti. Ciao Checco. Ciao Checco. Ciao Checco, fai schifo. Checco! Checco! Checco chi? Checco! Checco mi ha scritto non ruttare, coglione, in ritardo tipo 20 minuti. Allora, ok, quindi questi stanno cominciando a salire. Atanas è paralizzato. Garrosh è paralizzato. Sfortuna. Sì, ma non dirlo con questo. Come devo dire? Goduria. Oh, sì! Paralizzato, sì! Perché io vedo qualche spaventapasse di danneggiato. Sì, cioè quello che avevi danneggiato super coso. E vedi anche quelli danneggiati dal fuoco di Patk. E quello sì che avevi colpito a metà della scala. Ok, allora faccio un muro. Ecco, grazie. Parlo da te. Ok. 17-26 colpito, quindi il primo su quello che ho danneggiato prima faccio 5 danni, su quello il secondo che avevo sull'altro e faccio 12 danni. Perché non li hai fatti sullo stesso? Dai, 16. Marco, ammazza uno dei due in più di coso di spaventapasseri, così non si possono tornare su. Ah, non avete un trucchetto per fargli un danno? Adesso c'è anche questo. Bisogna segare i due in più, rega. Quindi è due spaventapasseri dell'altra colonna, così non arrivano solo. E tu hai detto quanti? 5 con le che avevi colpito per prima. Ok. Con della calma. Va bene. Puoi minimizzarlo. Chi vuole un po' di cure? No, a me mi puoi fare un danno. Se ti rimango in ira. Curi? Cura? Tra le altre cose, sì. Cazzo, cura, sì, tutti. No, lancia gli Eldritch Blast. Li ha già lanciati quelli. Ok, fine del turno. Ma cosa ha fatto? Ha ammazzato chi qualcuno? Ha fatto dei danni agli spaventapasseri. Ma quali? Quelli giù. Ma due sopravvissuti a Casimir sono stati colpiti comunque da Casimir o no? I due sopravvissuti alla palla di fuoco sono di intonsi. E bisogna colpire quelli che colpito, ha preso Arci alla base. Ha colpito quello che l'ha già colpito svarie volte, che mi manca tipo pochissimo per essere okay, che è il terzo della colonna, quello in mezzo che era quello ok e un altro. Vai. E sfortuna Vardy, stran paralizzato. Race, hai questi zombie a 5 piedi da te. Vedi, mi allontano, ne attacco uno. Ok, tiro giù. Provaci. Cazzo, spingo giù, ho la forza di uno spaventapasseri. Provaci. provaci, hanno talmente tanti punti ferita che non ha molto senso. Facciamo prima buttarli giù che si smembrano. Giù. Hai capito? Cioè fargli danni. Sì, ho capito, ma io ho un meno uno in forza. Vabbè, magari fai 20 col dado se fortunato. Ma tu tira alto. Allora voglio, invece che farlo, do un Race, fai quello che il tuo cuore ti suggerisce. Libera i cani. Do una stella a Garrosh per farlo svegliare. Ok. Cioè, però l'importante è che mi fai dei danni. Esatto. Li faccio io, Sheo. Dagli una coltellata, altro che sbaglio. Sposto la stella su Sheo. Vabbè, faccio 20 per colpire non naturale. Questo è molto power player. Ma è inutile. Per non fare perdere l'ira al Vabbè, in realtà può essere. Cioè, rega è pessima questa cosa. Vai, butta giù. Faccio un danno. Va bene. Bravo. Oh, parola. Ma scusa, gli spaventapasseri non sono dopo di lui, quindi già finisce l'effetto. No, No, alla fine del turno non spaventa passi. Dura un turno. No, ma questo è per mantenerlo in ira, eh. E poi è esatto, per... perché sennò li perde l'ira. Questa è la race. Spark. Tocca comunque prima loro che ci attaccheranno. Chissà. Io lancio i dardi. Io ora sono in mira dei dardi. I no, fai in cosa? Ah, okay. Sono in ira. Sono spaventapassari. Quale? Lo faccio vedo di quelli che si sono montati. Aspetta, l'hanno messo male. Ma non è un danno solo, sì. È critico. Beh, suppongo che si possa trattenere dal fargli un furtivo critico con 12 anche di 6. Se critico è un danno, perché ho fatto 1 cioè, con un dado da 2. Se avessi fatto 2 avrei 1 in che sarebbe colpito. Comunque 1. Quindi fai 2 danni. Degli 8 da fuoco, no, ragazzi. Cioè, come 1 è comunque 1. Vabbè, sono in ira di mezzo comunque. Bom! 15 danni da fuoco che diventano 30! Oh, signori! Quanti? 1. Uno su uno spaventapasseri così col fireboltino. E l'altro? E poi come azione bonus? Questi non sono i druidi che mi sto cercando. Ah, i druidi, droidi. Sposto la sfera dove loro sono andati per evitare la sfera. Ok. Quindi? Quindi prenderanno i danni alla fine del loro turno. Se rimangono lì, però. No, all'inizio del loro turno se sono in mezzo alla sfera quando comincio. E se tu non cominciassi a lanciare. In realtà dice qualsiasi creatura che finisce il suo turno entro 5 piedi dalla sfera. Quindi già doveva tirare di brutto, catta, quanti ne avresti dovuti no, no, uccidere, no, al contrario, no, al contrario. No, no, che finisce... È il contrario, no, aspetta, allora... loro nel loro turno si allontanano. Allora la metto, la metto loro dove... Avanti. Dove comincia la scala. Verso l'altra. Ma scusa, brucia quella fottuta scala. Ma l'hanno smontato, lo dovevo sull'altra scala. Vai degli altri, bravo. Quindi dirigi la sfera 30 verso l'altra piedi scala. Verso l'altra 30 scala. Piedi verso l'altra scala, quindi va a da 2.30 sfera e basta. Sì, sì, perché ce ne basta. Riconoscimi. Basta tirarne giù uno di spaventa. La muovi di 30 piedi, quindi va da, a 2.90, a tipo 40 piedi dall'altra Marco. Scala. Se tirano giù quello, non ne hanno abbastanza per fare la scala. No, ne hanno un più. Sono 5. Ne avevano 2. No, sono 5. Cosa? Sono rimasti 5 di cosa? Di spaventapasse. Quindi è giusto quello che stai dicendo. Se ne uccidono un altro, non è abbastanza da fare una seconda scala. Se Marco dopo kill il tuo, ok. Questo era 4. Solo 4. Cioè, solo 4. Cioè, praticamente io stavo. Questo episodio ho fatto un support. Sono 5 per fare una scala. Ah, ok. Non penso io ho corso, ho sparato 2 danni di balestra e basta. Quindi vedete, potresti aver salvato la situazione in questo modo. Perfetto. Sì, non sono così. Allora, non è veramente stile posti di dalla che ho visto la scena, non è fatto per il combattimento, ha il carisma alto per imitare le persone. È così. Allora. Ma non avete una balestra, un arco? Cioè, il mio background è attore, tipo. Ema. Ciao, Ema. Dovresti parlare quindi. Lezione allora quando lo vuoi. Aspetta, ma allora se prendi tipo un livello come X-Blade, sei fortissimo. Non so cosa sia. Praticamente mi usi il carisma al posto della... No, no, no, la destra è comunque la destra più alta. Però ho tutte le base per evitare la gente. Due. E questa? E non è fatto per combattere il mio. Sì. Altri 4 sono a 2 di destrezza alta con un arco, sì. E ne arrivano altri 4 a 3.30. Ok. E stai cercando. Quindi 5. Questa volta solo. E adesso il surface lo brucio. Chi c'è lì dietro? I più indietro chi sono? Patk. Faccio un movimento e gli lancio e... prendi alla volta, sì. No, sfortuna. Patk e sfortuna. Tiro salvezza sulla saggezza. Sette. Devi tirare. Oddio! Aspetta, che devo tirare? Hai ascoltato il momento in cui lui si descrive il carisma per imitare le persone. 13 di 13 più il suo 3. E non so come fa a sapere il minutaggio. Che impressione. Ci metto Checco. Ok. Che forse è ancora più inquietante. Ciao Checco. Ma grande Checco che ci segue. Paralizzato, non è incapacitato. No, Arci no. È bloccato. Arci 13. Mercato, hai gli attacchi sono critici e la creatura fallisce automaticamente di tiro salvezza su forza e destrezza. Mm-hmm. E che mezzo del ragazzi, è un di 6 danno, però i suoi attacchi hanno vantaggio. Casimir potrebbe essere vivo. Ma è vero, Casimir l'abbiamo visto io, ma tipo la mano che fuori. Ah, il B-back. Sì, però esatto. Come zombie. Allora. O come zombie, figo. Abbiamo perso Salla. Garrosh. Lo stavamo prendendo per il culo. Tu che avevi paura di non ricevere abbastanza danni. Ti arriva addosso il primo zombie. Sono in ira di mezzo, ricordati. Sì. E sei paralizzato. Però sono in ira. Quindi attaccano con vantaggio e fanno critico a tutti gli attacchi. Non sono il secondo lì. Ah, se colpiscono è critico automatico. Okay. Sì. Però devono colpire. Però devono colpire. Prima attacco. Cambiata angolazione. Se no mi ero rotto il cazzo di casa, se l'appoggio. Salla! Questo è detto. Salla! Dimmi. Sai come si fa ad aggiungere alla barra delle impostazioni? La cosina per... Primo attacco 9 danni. Per guardare lo schermo. Per registrare lo schermo. 4 danni. Ti faccio vedere. Già dimezzato. Ah no, non ce l'ho più. Secondo attacco, manca. Terzo attacco... Qui? Porca puttana, che è stato critico. Doppio critico. Il concetto. Dovrei poter mettere un tastino che ti fa, ti riprende quello danni. Che tu vedi nel monitor. Allora, se 8 danni, quindi 4. Se esiste, è in impostazioni. E centro di controllo, personaggio controllo. Atanas. Sei a 210. Quindi a 30 piedi. Sono a 210. Sì, registrazione schermo, bravo, Salla. No, quindi adesso no, perché... Quindi a 35 piedi dagli zombie... 35? Sì, o 30 piedi da Garrosh, perché... Però a 5 piedi posso attaccare. No, cioè, no. Dovresti occupare Garrosh. Il mio stesso quadretto per attaccare. E c'è lo zombie. Sparo a Garrosh. No, però... Hai vantaggio. Puoi metterti dietro di me... e faccio critico. Puoi metterti dietro di me e sparare. Vado, mi avvicino e sparo a Garrosh. Che belli questi lapsus. 2.40 e sparo e sparo oltre Garrosh. Non sparo gli spaventapasseri, cioè sparo agli zombie. Però gli spaventapasseri, io sono gli spaventapasseri. Ah, dopo ti dico perché non sparo gli spaventapasseri. Comunque ti provo. Vabbè, okay. Vabbè, non fai neanche 8 Garrosh. Hanno 8 di classe armatura. Sì, 5. Ma con cosa stai attaccando? Che non va? Sì, 8 preso, vai. Dai, hanno 8 di casa armatura. Garrosh, cosa fai? Sono 7. Paralizzato. 7 danni. Avevo già sullo stesso zombie che volevo. Ma sei sparalizzato, scusa. Sì, sparalizzati. No, alla fine del turno poi può essere bloccato per È tornato, è nuovo turno. Io sono primo del turno. Non ho già saltato tutto l'aereo, ce ne sei prima. Allo stesso a cui ho fatto danno prima. Li butto giù. Sì. Avevo già sparato a uno zombie. Spari a quello che ha attaccato lui? No. Ah, un altro. Palle, vabbè. No, non a quello, chi se ne frega di quello che ha attaccato lui. Sparo a quello che ho già attaccato. Non è quello che ha finito giù dalle mura. Sassali giù. Chi è buttato? Non voglio vederli mai. Che lui è buttato. No, è vero. No. Bye. Sì, no, perché io prima ho avanzato, ho sparato a uno zombie che era là. E lui mica ci è arrivato a buttarlo giù. Non ho segnato nessun danno. Ecco. Ah, era questo. Era due turni fa. Sì, trovato. No. No, non sono quelli che sono stati buttati giù. No, perché erano stati buttati giù prima che io gli sparassi. Sì, in teoria... E l'avevi colpito. Scusate. In teoria, prima di essere paralizzato, di saltare un turno, mi ero mosso e ho sparato. Vabbè, fai un zoom. Okay, tolgo altri 7 danni, per il colpo di prima, semplicemente. Vai, spara. Vai, Garrosh. Spara, prova di forza, gli spingo giù. Vai. Giù. No, vantaggio. 21 vince giù 1 vai col vince? Secondo vinci. Ah, minchia, avevo capito vince giù 1 vai col secondo. Ok, vado col secondo, continua a spingere giù di questo è giù. Provo dopo stessa cosa, fai danni, eh? E prende i danni da caduta. Sì, prende i danni da caduta. Dai che si fa così. Dove sono i mongre? Hai mai segnato il danno? Ha fatto il clip un attimo, devo andare. No, delle cuffie, cazzo. Ha sempre segnato per cui. Si raggiunge un secondo, scegli la posizione a te. Sì, aspetta di fare una partita. Giocare dai. Un prossimo gioco di ruolo in cui le interazioni 22. Sono molto più importanti dei combatti. 22, stai buttando. Sì, ne hai buttati entrambi giù. Sì. Sta bene? Che sfortuna. Se ovviamente continua ad avanzare nel caso. Fortuna, sei paralizzato. Sì, ordino mentalmente al mio famiglio comunque di cercare quel cavolo di tomo della strega. Va bene, il famiglio si mette a cercare. Allora, tu hai detto che avanzi lo stesso. Io avanzo fino al prossimo. Fino al prossimo. Anche quindi tu sei qua 2.45, 2.50, 2.80. Anche per dare spazio a voi di avanzare. Sì, scatti spazio. Ah, il prossimo è 10 piedi dietro. Eh sì, allora avanzo di 10 piedi. Arrivi addosso al prossimo. Sfortunare questo, Vardister. Arrivo al prossimo per spingerlo? C'hai un nano davanti. Lui ha appena detto che si è mosso fino a quello, quindi è lì davanti. Ok, ascoltami. Ti ascolto. Allora, abbiamo fatto un combattimento dove in una casella ci hanno attaccato esatto. 15. Perché quello si muoveva. Perché non ha fatto quello che ha fatto lui. Ma io lo aggiro e sbingo. Io lo aggiro e spingo. Ma scusa, perché se io rimango un passo indietro rispetto a questo, lui può farlo. Se tu sembra un passo indietro rispetto agli altri. Ma sì, perché lui deve passare attraverso te, ma non può interrompere il movimento dove sei. Ma anche se lì io lo aggiro e lo spingo l'altro. È 10 piedi da me, io ne faccio 15 e spingo l'altro. Io pensavo che fosse. Ne vuoi 20? Io ne faccio 20. No, dietro meno. E non c'entra, cioè sono una donna. C'è un quadretto in cui c'è un tuo alleato, c'è un quadretto zombie in cui c'è uno, un nemico uno. Adiacenti. Sono una cazzo di riga così, giusto? Saranno almeno due quadretti o no? No, è uno. È uno. Che, è questo il problema. Allora tiro giù lui. No, vabbè, allora tiro giù lui. E non mi ci fa passare? Tu non puoi interrompere il movimento sul quadretto di un alleato. Il problema è che subito dopo di lui c'è un quadretto di un nemico che tu non puoi attraversare. Allora sto un passo indietro. Pensavo non potesse passare allora in fottuto. Pensavo fossero due, scusa. No, non c'è le frecce. È largo un quadretto. Le frecce. No, fai male ai spaventapassi. No, bisogna sassare tutti questi rega. Io sto un passo indietro. Io avevo capito che in ogni caso non potevi. Ma c'ha due frecce e un zombie. Uno l'ho già colpito. Ha più senso che spari agli zombie. Beh, però scusa, se io gli vado attaccato non riesco a colpirlo, no? C'è un'arma a portata, sì. Vabbè, potrei quasi darci bless. No, dopo concentrazione. Vabbè, sparo ste due frecce. Ok. Tanto dopo Vardistran c'è Race, i Mongol, giusto? Che punto era? Una cosa, pensavo che non poteva fare una serie, cosa faccio? Poi spaventapasseri. No, non ci arriverò mai. Gli altri spaventapasseri, quanto sono da noi ormai? L'altra colonna di spaventapasseri, quanto è? È a 3.30, quindi voi siete in 2 e Garrosh a 2.50, quindi 80 piedi. Quindi è a portata del mio arco. Quindi io sparo a quello giù. Il primo. Esatto, giù. E gli sparo due frecce. Una delle quali fa 22 e una delle quali fa 21. Colpiscono entrambe. Purtroppo sono due miseri. Frecce normali. Non mi fai nulla. Zero? C'erano zero? Semplicemente di mezzo. Ah vabbè, faranno... Sono 3 e 3. 6, 3 danni. Ok. No, 2 e 2 sarebbe. O 1 e 1. Forse 1 e 1. 2 e 2, secondo me. Se arrotondi 3 diventa 1, mi sa. 1 e mezzo. Comunque, intanto che lui controlla, dopo... Vabbè, scusa, con me 9 hai detto 5. Ah sì? Perché sono stato troppo buono. No, al contrario, presi. Mi hai detto 9, quindi 5. Quando te li ho inferti, perché è uno. Allora fai due danni. Allora dai un punto vittoria. Quindi, Race, Davanti a te ci sono Vardistran e poi Garrosh e poi uno zombie. Scusa, avevo capito. Ma tanto se non posso spingere, l'unica cosa posso fare è attaccarlo. Tu puoi fare un'acrobazia forse. E per poi trovarci però in mezzo agli zombie. Sì. Spara, Ray, spara. È una mossa alla scena. Forse sparo. Non hai un arco? No. Non puoi fare dei trucchetti per distrarli e convincerli a buttarsi di sotto. Se non hai armi di stanza. Ah, no, serio. Normalmente come giochi in sala? Non l'ho mai avuti. Dobbiamo procurarti le armi a distanza. Ma normalmente come giochi, cioè. In combattimento. Io non gioco da 6 mesi. Ah, ok. Ovviamente. Vabbè, ma non è un. Ma no, la mia domanda era seria, non è un trucchetto per distrarli. Sì, per distrarli. Persuasione. No, magari veramente qualcosa che li convince a buttarsi di sotto addirittura. Allora voglio corro, faccio un'acrobazia. Vai. Ricado davanti a Garrosh e spingo il tizio davanti. Spingo Garrosh. Batteria. No, non te ne. Sei stato pausato, ripeti? Sì, ma porca puttana. Questa volta è colpa nostra. Faccio l'acrobazia, salto Garrosh e mentre scendo spingo il zoppo davanti a me. Ok, sì, mi sembra... poi, tu puoi farlo camminando sugli spalti. Un po' tiratina, salo questo. Ma lo spingi in dentro. Vabbè. Verso la città. No, non lo fare. Perché dentro la città? Perché per raggiungerlo tu cammini sugli spalti, che gli spalti sono... Non posso saltare sulle lui ha spinto dove? Cioè lui ha spinto in una direzione, può spingere la stessa direzione. Vabbè, tira. Perché sei nella direzione. Per raggiungerlo andresti nella direzione opposta a quella da cui lo devi spingere. Scusa, non può saltarmi in testa. E poi? No, la mia idea è che io vado. Non puoi tirarlo. Mi salto sopra e poi spingo. Non in carica. Va bene, fai una prova d'acrobazia. Vuoi utilizzare questo computer? 12. Fallisci. Perché non in carica? Per morire davanti a Garo. Sì. Ok. Pat. Quindi ora farai quello che io ho fatto a Vex. Sarai in mezzo ai coglioni. In realtà quelli che sono in mezzo non conta perché vi potete passare tranquillamente. È quello davanti. Focus una... C'è ancora uno stupendo passo. Lui sta facendo quello che io ho fatto a Vez poco fa. C'è uno stupendo passo ancora io. Dietro, non è riuscito a saltare. Non sei riuscito proprio a passare. Ah, sei dietro. Ce ne sono 5 da una parte e 5 dall'altra. A questo, e sì. Quelli. Quello che avevo colpito prima era io. Quello che ha incenerito con 30 danni è esploso. Esplode un altro. Vai. 14 più tanto lo becco. Bom! 15-30 danni. Esplode un altro. Poi sposto la sfera. Altri 30 piedi verso la base dell'altra sfera, scala. Sfera. Qua. Adesso ha 40 piedi. 110. È a 20 piedi. Saluto. Ma quando è stato giù? Ovviamente era quella di Strand. Che domanda. Poi, mi spaventa passeri. Quindi com'è che in due round spazzato via due spaventi? Devo spostare. Addio. Allora Pat ha segato il quinto che era nel primo punto. Quindi gli altri quattro non riescono più a riformare la scala. Smetti di scuotere le teste, poverini. Guarda, mi stai rovinando. In compenso si muovono per potervi bersagliare col loro sguardo. I più vicini sembrava a loro tipo Black sono Mirror. Uno, due. Ma perché qua è più? Perché si sta scaricando. No, non mi fa caricare attaccando lì e quindi devo attaccare una testa. Allora, i più vicini a loro sono sempre Fatk. Ma sono camicie? Niente, ora li metto insieme qua. Ah, sono sotto le mie ascelle. Così ecco, ci potete leggere l'avventura come. Sì, ti spiego, se io faccio così, non è che vedo sotto. No, vabbè, è che prima ce l'aveva davanti a te, l'ha spostata. Attaccare questo. Allora, Pat, Vardistran, Atanas e Sfortuna, fatemi un tiro salvezza sulla saggezza. No. Da fanculo, dai! Che palle. Okay. 5, ne passo uno. Che stai facendo, Arci? Un dito gigante, aiuto! Quanto hai fatto sulla saggezza? Non credo abbia tirato. Perché ha le unità impegnate a fare cascate. Tu hai contato che sei entro 10 da Vardistran? 8. Avete un più 3. E tiro sulla saggezza. Sfortuna, tiro sulla saggezza. 15 più 6, 21. 14, grande sfortuna, è passato. Poi gli zombie, e ne arriva addosso uno. Ha il primo della fila, che è sempre Garrosh. Non sono io? No, non è lui. No, non sei riuscito a saltarvi sopra. Già. Oh, vabbè. No. Hai fallito. Il nano è troppo alto. Il nano è troppo alto. E... Garrosh, vieni colpito solo da un attacco. Qual è il suo problema? Garrosh! Garrosh 3 danni. Quindi uno. Un danno è. Quindi uno. Ok, quindi ne salgono altri 4. Atanas, sei paralizzato. Sì. Garrosh, è il tuo turno. Pensa bene a quello che vuoi fare. Levati dalle palle. Vabbè, io posso camminare sulle pareti, però questo mi dà vantaggio. Sì, puoi camminare sulle pareti. Che cosa fai? Sì, no, non lasciare che gli altri arrivino addosso. Come quanti sono poi gli zombie? Buttali giù! Ce ne sono davanti a te un gruppo da 4, dietro un altro gruppo da 4 e tra i gruppi c'è spazio. Sì. Buttali allora giù. Vado tra i due gruppi e comincio a buttarli giù da dietro. Sì, ma io sono bloccato, sono paralizzato. Buttali giù a 1, 2, 3. Quello che sta facendo 3 anni. Porta anche in mezzo. Cioè, buttali giù uno alla volta. Vabbè, era per lasciare poi spazio a te. Ti sparalizza al prossimo turno. Sì, ma lasci, sì, però se arrivano addosso a me, io subisci un attacco. Il mio prossimo turno. No, ma ci sono io in mezzo. Fa critico. Io ne ho 30. E soprattutto prima che tocca a te sta ai tuoi alleati, quindi si suppone che qualcuno arrivi. No, beh, ci sono io in mezzo. Esatto. Poi c'è lui in mezzo. Ecco, lo volete dire. Perché così, ci sei tu, Race, e poi io. Okay. No, c'è Race, ci sta. Non sapevo se fosse paralizzato meno, Race. No. Quindi, allora faccio così, vado dietro questi 4. Sei in mezzo a due gruppetti. Siamo più in diretta. Vero. Quelli verso di loro. Io sono in diretta. Quindi sì. L'ultimo del primo gruppetto. Vedo come sto facendo lì? Sì. E poi quello dopo. Vai. Perché sei così sul nulla. 14. Vinci. No, okay, sbagliato, cosa sta merda? Guarda scemo. 23. Vinci. No, ma non siamo in diretta lì, Non siamo in diretta lì. Lo so. Ok. Sì, si vede un coglione che fa qualcosa. Sì, fa così però. Domanda, questo sfortuna tocca a attacco. Spero che siamo in diretta. Ok, allora, che io mi muovo vicino agli altri quando sono distante dall'altra scala. Scemo è resistente. Allora, spara degli zombie. Tu sei a... È impassibile. Tu usi il tuo movimento, quindi dove sei? Sfortuna, qui. Vai al 150° piede. L'ultima scala è al 330°. Quindi sono... Cosa? Sì, 180 piedi. Ok, no. Questa mia parola di forza. Di malato, c'è gente che. Vabbè, nessuno guarda la diretta, però se ci fosse gente che guarda senza. Una così. Sì, esattamente. Vabbè, abbiamo una persona disturbata. Ah, stai entrando stupendo. Gratis. Per vabbè, dai, provo. Non lo so. Posso tirare un'arcana per capire se loro soffrono sleep come cosa a caso? Gli spaventa passeri, dici? Mm-hmm. Cosa sono dei costrutti? Puoi provare. 17. Allora, sai che sono dei costrutti E le condizioni alle quali sono immuni sono sciarmato, esausto, spaventato, paralizzato, avvelenato e unconscious. Quindi sì. Mm-hmm. Allora, quella valeva come azione o come... Puoi fare la tua azione anche. Ok, sparo due Eldritch Blast. 27 critico. Mm-hmm. Quindi 23 danno e 5. Quanti danni, scusa? 28 in totale. Il primo 23, il secondo 5. Sempre su persone diverse lo fai. Lo splitti o becchi lo stesso? Lo splitto. Ci vedo che Giulio ha un prurito qua, esatto. Ok. E 5, 23. Uccidi un altro spaventapasseri e ne ferisci un altro. E dopo sfortuna c'è Vardistran che è paralizzato. Race, è il tuo momento. Quanto è distante da me lo spaventapasseri? Tu sei a 2,45, 5 piedi. Allora io sono invisibile? No. No. Io mi metto... Quanto è largo? Nella passaggio? Diretta la tua demenza è un po' coperta da è un corridoio. Ci vede. Poi però ci sono gli spalti di fianco su cui tu poi volendo puoi camminare con un'acrobazia. Ma quindi hai lato, cioè c'è il vuoto di fianco. Sì. Allora io vorrei usare l'azione bonus per tipo cioè mettermi giù sulle mani, cioè aggrapparmi con le mani sullo spalto. Sì. E preparo l'azione e il movimento a quando passa, cioè preparo l'azione quando passa, se passano, salgo e mi metto in mezzo alle palle. Se non passano sto lì come uno stronzo. Ah, stai appeso come un salame qui. Esatto. Va bene. Così se vanno su Vez mi metto in mezzo, se invece non vanno su Vez sto lì come uno stronzo. Grande. Patk. Io continuo sugli spaventapasseri. Prego. Becco, rispondo un altro. 11 per 2, 22. Hai. Proviamo. La sfera va alla base dell'altra scala. Sì, c'è uno che ha preso ben due danni. E sta lì. E sta lì. Ah. E sta lì. Quindi, ora scendi. Quindi, tocca a loro. Allora, che fanno? Salirne altre 4. Poi 3 che sono rimasti sotto vi guardano male, quindi fanno un tiro salvezza. Quelli che vedono che sono sempre il solito Pack, che non avrà certo problemi, e poi vedono sempre il solito Vardis. Ma io che scusa, sono ancora paralizzato. Ti sparalizzerai alla fine del loro turno. Ma possono farmi consecutiva? Perché all'inizio del loro ti sparalizzi, giusto? Alla fine del loro prossimo. Quindi ok, quindi sei ancora. Quindi no, sei ancora... Abbiamo un minimo di pietà. Esatto. Però il più 3 è mio. Sì, chi ce l'ha? Quindi Garrosh. Però non ho il più 3. E Atanas. Io non ho il più 3. Io sono paralizzato. Ancora? Che triste storia. Io non ho il più 3, vero? Ok, quindi rimangono semplicemente Garrosh e Patk. Tu perché non hai il più 3, Garrosh? Io sono andato di là dal gruppo. Ah, è vero, non sei più a 250, sei a 285. Però mi sono riavvicinato di uno. Ci tiro di 20. Cioè, perché due li ho tirati giù. Saggezza. So. Sì. 280. Ah, 20, quindi 20. Sono a 10 da Vezzo, no? Quindi vai, sei a... No, veramente. 6 a 40 da Vez. Ah, ok. Fate girare dietro. 6. Okay. Raga, dovete farmi dei... No, ci penso a loro, farmi danni. Non stare dietro. Tieni. Ok, questi erano... Ah, adesso dovranno 25. Attaccare qualcuno. Forse vado giù. Quindi... perché sono... che mi attaccano. Race, il primo zombie va verso di Vez. Tu cosa fai? Io mi metto in mezzo. Quindi ti metti tra di lui e di Race. Esatto. Tra di lui e Vardis. Tra lui e Vardis. È che mezzanotte 40. Non sono più io, però. Sì. Tu non lo sai più. Sì, ti metti tra loro due. Puoi fare un attacco se vuoi. Lo faccio. Sì, c'è la armatura 8. Purtroppo non hai un alleato di fianco a lui. Quindi fai un attacco. Allora, normale. Colpito. Tiro un D8. E questo era l'ultimo del turno. Sono 5. Sono 9 danni. 9 danni. E 18 in destrezza? Atanas, sì. Ti sei sparalizzato, giusto? Sì. Stai a te. Però sono bloccato da Race. Questa armatura sei bloccato, adesso carisma. Sei bloccato da Race. Carisma 14. Ah, ok. No, io ho dei bonus a carisma per fare l'attore. Ragazzi, basta. Va bene, basta così. Quanto hai due. Ma l'hai clippato? Certo. Non è andare la clip. Saltagli sopra. Beh, con atleti, no aspetta, io posso saltare lungo, sì, di più del normale, perché sì, sono un remarkable atleta. Sei un remarkable atleta. Quindi tanto sfortuna, pensa cosa vuoi fare. Mi salto. Beh, lo sappiamo. Salta. Salto il lungo. Vai, salta il lungo, athletics. E faccio il 4 piedi in più del normale. Però faccio 4. Hai messo questo. 11. Non, non salti abbastanza il lungo, cadi rovinosamente addosso ad Atanas, che è, è paralizzato. Ah, e quindi sei al posto di Atanas. Di Vardistra. Di Vardistra, scusi. Sei alle spalle di Race. Però adesso che vedo di più la sfortuna. L'espressione è paralizzato. Sfortuna, cosa fai? Ok, allora mi muovo ancora 30 piedi. Quanto sono lontano da essere abbastanza? Sì, in effetti. Finiamo questo turno, dai. Esatto. Sei a 150. È infinito. 80, 30 piedi. 20. Bene. Sì, sei a 150 dalla scala più lontana. Abbiamo combattuto. Lo faccio io la prossima. Non troppo lunghi sti combattimenti. Beh, però questo è figo. Boh, vabbè, cazzo. Dopo li vediamo, Ok, allora faccio Eldritch Blast. Non è combattimento così lungo. Non arrivo alla scala più lontana, quindi ancora contro gli spaventapasseri giù. Vai. Sì, sì, non dico che... Ah, ce n'è uno ridotto molto male. Ok, uno contro quello molto male, uno contro un'altra cosa. Quelli dell'altra parte, non ci arriva ancora dall'altra base. Chi non ci arriva? Ma questi ormai non possono... È a 150 piedi, sfortuna, dall'altra scala. Che non è una sfida figa, cioè è solo lungo. Ma questi scusami, sono rimasti quanti spaventapasseri sono rimasti, scusa? In totale 7. Cioè, certo, per dire, quello contro il Mongrel, l'altra scala era anche, c'è anche più gente. Ok, 15 e 18. Faccio 10 danni in primo e 12 in secondo. Ne uccidi un altro e ne ferisci Santa Mongrel, però il penultimo. Un po' più dinamico. In teoria arrivano anche altri 12 Mongrel adesso. E posso fare una cerca col topo per vedere se riesco a trovare, sì, il timbro. Ma che libro sto cercando? Quello della strega. Ah. Ok, posso fare Perception? Sì. Ok, a vantaggio, quindi 12. Trova il cadavere della strega. Poi il prossimo turno può cercare il libro. Ok. Fine turno. Sfortuna, Vardistran. Come posso rimesso spingere tu? Qualcuno? Allora, che non sia un mio alleato, magari. Dopo di te ci sono Atanas e Reis. Sì, esatto. Prima quindi no. A meno che io mi siedo e mi metto una cosa. Non puoi attaccare quello davanti a me come le persone normali, Vez. Ci sei tu in mezzo? Ma non siamo intercambiabili. Solo gli avversari lo sono. Il punto è chiaro, bastava dirlo. È la verità. No, in realtà noi dovremmo finire il turno dicendo faccio un passo indietro. Esatto. Tutto lì. Se finisci il tuo turno in quella posizione, poi l'altro non può interrompere il suo movimento dove sei tu e quindi non può attaccare. In realtà basterebbe a fine turno dire faccio un passo indietro. Aspetta, se lo fa. Un attimo, cazzo. Però fai un'acrobazia. Perdonami una cosa, ma qui non c'era una scala da un'altra parte? C'è pensato sotto io la bomba. I no. Punti di accesso sono uno qua. No, uno mi sono rotto i coglioni. Posso andare vabbè, se ritarda l'azione, me ne vado io. Può essere una soluzione. Ah, anche. Sì, sì, diceva che non si poteva ritardare l'azione. Tu puoi preparare la tua quando lui si sposta e fare il tuo attacco. La mia azione sarebbe cercare di buttare uno giù. Sì. Quindi questo era Vardistran. Dopo Vardistran c'è Race. Quindi Race, fai la tua cosa. Io sto lì fermo. Basta che sia qualcuno. Basta che io possa fare qualcosa. Ma la si sdraia. E poi? No, allora, non so, c'è altro che posso fare. Tu spingi in avanti o spingi di lato? La sua intenzione è spingerlo giù dalle mura. Quindi di lato? Sì. Quello che ho fatto è... Allora io vorrei fare un... Cioè vorrei... disingaggiare quell'azione bonus, sì. E poi camminare tipo, cioè aggrapparmi alle mura e andare un po' più avanti, ok, per passare dietro dove c'è la, esatto, dove c'è la loro scala per, che usano per salire, ok, puoi arrivare dove è Garrosh. Arriva dove è Garrosh, do un pugno sulle sue mani. Tu come si chiami? Race. Do un pugno sulle sue mani. Poi A me. Sì, tu avevi preparato azione. Puoi posso attaccare. Provare a spostarlo, puoi provare a buttarlo giù. A spostarlo. Prova a contrapposto. Buono. È il turno. Pinci. Quanto hai in forte? Giù. Più 7 in athletics. Quindi tra te e Garrosh c'è solo uno zombie. Devo fare forza o athletics? Athletics, sì. Cazzo, io sono usato forza. E poi posso fare l'altro, l'extra. Ora. Vabbè, hai dato la provincia. È un altro attacco, sì. Posso spostare un altro? No, ho fatto solo proprio di forza pura. Ah. Questo è un vantaggio. Sì, usato il vantaggio. Vinci, vantaggio. Oh, giù! Comunque la okay. Hai pulito gli zombie tra te e Garrosh. Questo era hai finito gli zombie della terra. No, ce ne sono altri. Forza, no, però tra me e Garrosh ne sono. Perché questi qua contano. Quindi il prossimo è Garrosh. E io con shot un altro. I danni della sfera. Intanto faccio 9 più 6. 15. Colpisci. Capisco. Sì. Sempre col dado infuocato. Boom! 20 danni. Muore. Quello la base? No, lui sta colpendo quelli prima. Però, guarda, okay, caso vuole che la sfera finisce proprio lì. Lì, proprio lì. Quindi tu devi tirare adesso. Devo tirare destrezza. Perché avrà finito il turno lì. 14. CD? 14. 14. Da svantaggio. Uno fallisce e uno supera. Peccato che faccio 10 danni. 6 più 4, 10 più 2, 12 per 2, 24. Quindi uno ne becca 24. No, scherzi, no, è vero, 1, 10 e 1, 20. Beh, no, sei vulnerabile, sì. Sì, però sono 6 più 4, 10, fine. Se sei vulnerabile diventano 20. Ok. E se di mezzo 10. Okay. Una puttanaia. I cattivi. E uno aveva subito 2 danni. Non scordarlo. Sì, infatti l'ho segnato. Patto, tiro salvezza sulla... Vola con sta saggezza, ancora? Non puoi fallire. Non posso fallire di salvezza sulla saggezza. Madonna, 7, 6, madonna. 13. Se faceva questo. Grazie. Sì, hai superato. Più 6, ma... Dov'è? Ma chi è che mi sta spaventando? L'ultimo spaventapasse. Ma in teoria dopo non hai anticorpi tipo vaccini. Dopo un po'. Sì. Poi il tizio, lo zombie su Garrosh che è paralizzato, questo non è l'idea. Manca. Secondo attacco, manca. Terzo attacco, colpito. Amore mio. Sono 8 danni. Meno male che uno ha colpito. Va bene, quindi, meno male che... Non hai subito nessun danno, 46. Va bene. Io sono full, raga. Sì. Adesso lo buttiamo giù, vero, rega? Beh, del resto non sei fatto per combattere. Vedremo. Grazie al tuo carisma sei puro. È così che si gioca l'Arcane Trickster senza morire. Buttandosi giù un po' alla volta. Il primo no, perché se si smembrano non riescono neanche a riarrampicarsi. Il primo del turno è Atanas. Andiamo a letto e riprendiamo da qui la prossima volta. Segnati chi è paralizzato, chi no. Sì, ho segnato. Ok. Chi è paralizzato? Garro. No, aspetta, loro adesso hanno fatto. Quindi paralizzano adesso. Tutti sparalizzano. È infinito. Quindi tutti si paralizzano. Sì. Ma non so se in questo turno ha guardato qualcuno. In questo turno ha guardato lui e ha passato. Non si staccherà mai. Non dice nulla. Arci che fa finta di ignorarci. Sì, ancora. No, il fatto che la demenza di Arci non viene in diretta bene perché c'è Scio in mezzo. Ma non Scio è il soggetto. Passatemi. Cioè, non si vede, raga, io col fatto che c'è Scio qua che mi copre, posso. Non vedo un cazzo. Sì, staccali e passameli. Staccali e passameli. Sì, staccali. Stacco tutti i due cavi. Sì. Addio. Così è morto Marco. Così. Morto Sam. Mi spiace, raga. Non volevo. Addio. Ciao a tutti. Ciao, raga, ciao, avete visto il 32esimo episodio della maledizione di Katta. Detto anche lo scatolamento di Sceo. Questi bambini che sono con noi. Il prossimo è il 33esimo. Sappiate. Gli anni di Cristo, quindi... Quindi, 32esimo episodio della maledizione di Katta. 32esimo episodio di a livello 7. Ancora. Ricordatevi che ci potete seguire sui canali social di Tycoons & Dragons e RGDR e buona Un saluto alla Turchia. Marco, Salla ci ha già salutato da mezzo. Ciao Marco. Ciao, un pacchi saluto e un turco saluto ai nostri amici. Ci dovremmo imparare qualche parola. Così, ciao a tutti. E il 33esimo sarà quello dell'ottavo livello? Non credo proprio.